quindi ha avuto l'ordine dai vigili urbani di smettere presto, perché sennò avrebbero fatto il giro più grande, eccetera, eccetera, hanno fatto fare un giro piccolo. Cioè, sono partiti dal fornitore che c'è in via Sassari lì. Poi sono scesi giù in piazza, hanno proseguito per tutto il lungomare e si sono fermati lì. Ora, ora. Tutto così. Sono partiti da Balai, dalla spiaggetta di Balai, insomma, dalla strada in alto, e si sono fermati nella via centrale, dove c'è la passeggiata, via Sassari si chiama, sì. Ma poi non è possibile, le viste tutte qui. Come vedete ti ho visto anche. Una persona di queste sfilate, le viste tutte. E poi? Praticamente quel giorno c'erano anche, c'era il carro di pirati e loro sparavano con una specie di cannone finto, no? Tiravano certe cannonate e quando ho chiesto io se potevano sparare in aria, che la pistola era salve, ha detto io meglio di no, e non ho capito, quelli sparando e noi no. Poi c'erano i cavalli, una volta che dopo che c'era la testa c'erano i cavalli dietro. E questa qui ha fatto, e come si fanno questi qua in mezzo alla fila testiva, boh, è un controsenso. Chissà, non è che avevano attinenza con qualche carro, no? Il carro funebre. La chiusura della festa, diciamo, la chiusura c'era il cavale che chiudeva. Avanti, Grondino. Scusate che sto facendo un po' di pulizia qua nella stazione, che c'è il treno messo male. Ma c'era anche Luca? Non ho sentito nessuno. Luca Manicomio. No, Antonio, negativo, a meno che non sia l'ascolto. Attenzione Luca. È schiattato dal caldo allora. Era apparso di capire. E va bene, e va bene, invece c'è il Marco Condor. Eia, Marco Condor, mezzo schiattato dal caldo. Oggi naturalmente non sarei mai andato al mare perché deve essere un carnaio. Mentre invece oggi, ieri c'era un bellissimo concerto in Piazza d'Italia, però oggi vi consiglio invece di andare a vedere c'è una cosa, come si chiama, una convivenza sarese. Non mi piace. Ma quando? Piazza Santa Caterina stasera. A me già mi piacciono molto quelle comedie, che come le hai? Di Nino Costa, si chiama, quando la gioca, una cosa del genere, non mi ricordo, è nel settimo vicino di stasera estate. E che le dici? Credo verso le 9:30, 10. Ma ti piacciono le comunità serie, non fanno una musica dell'Eurovisione? Sì, vabbè, sono divertenti, però le considero cose terra a terra. Non è vero, bisogna sempre recitare anche lì, non è che c'è anche lì lavoro o sto sbagliando. Non sono terra a terra. Sono cose che non è più una pizza, però sono cose belle. E vabbè, preferisco cose diverse, dai. Come cosa? Se poi vedevi le brasiliane che stavano ballando ieri dietro il carro, erano brasiliane vere, insomma, forse se le avresti preferite. E a tu, qualsiasi altra cosa che non sia roba sarese, non metteva la proprio. Non ti piace il sassarese, in breve? No, la considero una lingua rozza, non... beh... No, non è così. Non è così. Dammi il controllo di radio, Marco. Buono. 5, ascolta, ma io ho alzato l'antenna perché stai arrivando 9:35 a questo apparato. Aspetta. Guarda, ma tu perché non riesci a lasciare? che cerco di attenuarti, cerco. E come sono? Una tirana di radici un po' pesante? Se sei 9,5 attenuato, 5, 10, 15, vedi, se 9,30 aspetta, Dove è un effetto telefonico? Praticamente 9,40, ma adesso sei vitaminizzato, no? No, negativo, ora. Ora 1, 2, 3. Ma quanti watt sono? Questi qua sono, esagerando, 3 watt. E 3 watt, l'antenna cos'è, direttiva? Perché mi sembra un po' troppo forte il segnale, non è come il solito. Non è come il solito. Ora, 1, 2, 3. Aspetta, Tu al minimo si fa un attimo. Figlia, chi è? Sì, che vi siete tutti incastigliati, cosa che state dicendo? Ma come fai con 3 watt, 9,25 sei a casa, come fai a uscire con 3 watt, 9,25, non mi è male. Però te, perché quante ti arrivo di solito? Adesso che ho alzato l'antenna è così. Ma che hanno messo? Una gnogno. Se sei con 3 watt questo segnale, allora con 5 watt quanto devo uscire, non ve se sa. Quasi, ora, Coca-Cola. Segnale mio, commento, questi sono 5 watt reali. Tu sei, aspetta che non stavo guardando, sei, rimieni avanti. Ecco qua. Santiago 9. Santiago 9 col Kenwood magari. No, negativo, non è Kenwood questo. Io quando ti arrivo lì. Quant'è? Cos'è Intec? Però c'è una modulazione ultima. Questa qua è un 48 modificato. Ora. Arrivava ai 30 punto 100 MHz, mi pare, no? Cos'è? Non ho capito. Ho detto una volta, tu avevi un Intec omologato o pseudo, arrivava sui 30.100 MHz, vero? Sì. Ma ce l'hai ancora lì? Però Roger, sì che ce l'ho. No, vabbè. Era per fare una prova, ma non te lo chiedo. Non a te almeno, dai, perché? Perché non posso. Attento l'amico di Spagna, si scuccia Italia, Sardegna, Sassari. La modulazione molto bassa. Il tuo nome? Come è? Io non ho capito il nome. Attento l'amico, adelante. Amico, nominativo, prego. Tenete un pochetto di vitamine. Ma credo di armare della spana della Scusiardiso, della Sardegna, davanti. Vanno a vedermi, hermano. Si perde. Serra Pappa, ha detto, Serra Pappa, se non erro. Il coro minero, mio hermano, il coro minero, ripeti il coro minero. Non risponde. Quando lo chiami non risponde. Aspetta un attimino, lasciate il tempo. Attento, mio hermano, è scusiato nella torre del tavolo della città di Sassari. Allora, si sta perdendo la preparazione. Stavamo dicendo. Ehi, Anto, hai detto che non potevi. Ricordati, tu, magari come radinatore, non puoi scantonare in altre bande dei 30, diciamo, no? Ma come CB puoi fare quello che vuoi? No, non è vero, queste cose lasciale dire a Pomponio, che il giorno che gli mettono i ferri, arriviamo. Non è così, perché come radioamatore ti tolgono la patente, come CB ti arricciano secondo dove vai. non è che CP ti dà maggiore libertà, sei sempre una persona che sta modulando con un apparato che deve essere omologato, al contrario di un radioamatore che può utilizzare ben altri apparati diversi, però le frequenze vanno rispettate. Ma perché vanno rispettate? Perché non ti rendi conto che andando in frequenze particolari per armoniche vai a disturbare canali importanti quali quelli dell'aviazione, quali quelli delle forze dell'ordine e tutte cose. Ad esempio, quando inizi a sforare al di sopra dei 27.465, stai entrando in una banda che non va bene, perché per una serie di armoniche va a inficiare con quella aeronautica. Non ho copiato. Manco 27.465 per entrare, Anto. La nostra frequenza si blocca sul canale 40. Questo assolutamente, infatti non è che ti ho detto che la 27.465 è legale, ti sto dicendo però salendo al di sopra stai entrando per una questione di armoniche in altre bande e crei problemi, ma a prescindere, dico, viso tanti di quei canali che non vengono utilizzati, cioè dall'1 al 40 non vengono utilizzati, ma perché andare su? Crei problemi e te ne crei, Marco, poi siccome le leggi purtroppo non sono state adeguate, magari accoltelli una persona e ti danno 2 mesi, fai una cagata così in radio e ti danno 2 anni, quindi attenzione. Però, Anto, quello che volevo esprimere io è che se tu stai usando un apparecchio radioamatoriale, per esempio 20N45, è un conto, se tu sei anche CB, usi un apparecchio CB e sconfini qualche canale, non è che ti devono levare la patente, casomai ti devono sequestrare il baracchino e sanzionare limitatamente ai canali in cui hai sconfinato, insomma. No, purtroppo non è così, perché una volta che acquisisci la patente sei un radioamatore a tutti gli effetti, non è che puoi scegliere a seconda che sia CB o cosa. Quindi al pari di una patente dove toglierti i punti lo decidono loro, ma a prescindere, ti ripeto, state bene caricati, che poi davvero quando si sveglia il can che dorme succedono solo casini, è meglio stare tranquilli. Ma vabbè, io il paragone che volevo fare è tipo che se tu investi uno con la macchina non è che ti sequestrano la moto, capito? Va bene, allora, quindi è un'arma di doppio taglio avere la patente. No, non è quello, è un'arma di doppio taglio proprio perché ti mette nella condizione sicuramente di avere degli apparati e poter andare su bande particolari. Però allo stesso tempo dal giorno c'hai una targa, quindi non puoi fare un acco, come ti dici, no? Mentre quando c'erano i motorini senza targa potevi entrare in senso vietato o fare casino, a impennare in moto, intanto il vigile se ti riusciva a fermare bene, se no non ti riusciva a leggere il numero di targa, non avevi targa. Adesso la targa ce l'hai e una volta che fai le porcherie ne paghi lo scotto, punto. Ma vabbè. Comunque Anto, come vedi, per esempio sui 45 metri ci sono, che dovrebbe essere in teoria banda aeronautica, se non ho capito male, ci sono i pirati sui 45 metri, ci sono da 30 anni, da 30 sono quasi sempre gli stessi, le scoposte non fa niente, sono dei lavativi, cioè non gliene frega, non hanno interesse a mandare via quella gente dai 45 metri. E dovrebbero occuparsi magari di cose minori, no? Di uno che va col baracchino sul 45 o sulla tripla 5 per esempio. No, non sono dei lavativi, sono delle persone che fanno il loro mestiere, sono delle persone tolleranti che è bene non prendere in giro, nel senso che non è che solamente perché una persona ti tollera a quel punto diventa uno scemo, è solamente una persona che ti sta tollerando. Infatti bisognerebbe evitare di far sì che queste persone un giorno, giustamente, perché a questo punto dico giustamente, si girino nei pivisti, prendano la camionetta e iniziano a ammazzolare le persone che non rispettano le leggi, perché il problema è che i cadaveri nell'armadio ce l'abbiamo un po' tutti, chi più e chi meno, però nel momento in cui vieni tollerato, almeno stai con la testa bassa, non ti vantare del fatto che c'è il cadaverino nell'armadio, se no queste persone giustamente si sentono prese in giro e iniziano a dare mazzulate. Siccome sono forti le mazzulate che ti danno questi, poi non è importante non mettersi a piangere dopo, capito? Io se ne ho sentite di tutti i colori, come SWL, ma non solo, anche come radioamatore, gente che soprattutto in nella CB che si mette a traslare la selettiva e tutta una serie di cose, c'è l'arresto. Avere il baracchino non è che solo perché non è unita a una patente non deve avere una certa responsabilità nell'usarlo, perché c'è l'arresto. Poi ognuno fa quello che crede, e siamo tutti grandi e vaccinati. Grandi e vaccinati. Va bene, dai, capisco il tuo punto di vista, ma per dire, io ho lo stesso ascolto sul ponte Cesar, c'è questo stronzo che sta disturbando da 2 anni da questa parte, che fa ruti, pernacchie, che mette registrazione degli stessi utenti, ma le scoposte cosa fa, a parte grattarsi? Basta fare una denuncia e sicuramente si metteranno in moto una serie di situazioni la macchina in modo tale da poterlo scoprire, ma ti ripeto, fra l'altro che frequenza è? Dimmi la frequenza. Allora, noi il ponte Cesar lo ascoltiamo sui 431 2375, sì, e c'è questa persona da una zona non precisata, continente comunque, perché qua in non arriva in ingresso al ponte, no, il nostro è quello che c'è a Villanova, vicino al Vero. Questo sta rompendo le balle forte, ma tutti i giorni, tutto il giorno, è una cosa incredibile, ne hanno parlato sui forum, ne parla i radioattori. Poi una cosa che non riesco a capire, i radioattori, cacchio, hanno attrezzature per milioni, e nessuno dei radioattori che frequenta quel ponte si è mai... come dire, degnato di mettere il reverso e vedere se in zona sua, se nella sua città, se nella sua regione, se nel suo quartiere anche. Aspetta, però non hai detto bene la frequenza, perché 4,31 non è niente, mi stai parlando di UHF o VHS basso, cioè che cos'è, sui 43 MHz oppure stai salendo e mi stai dicendo 431 MHz? Sì, Antonio, naturale, 431.2375, Ponte Nazionale Cesar. Sì, stiamo parlando di UHF. KK, Uniform Hotel, non me lo ricordo, Foxtrot, mi pare. Bravo, Foxtrot. Sì, adesso diamo, non ti dico la verità, non ci sono mai andato, quindi non so di cosa si tratti, ma è a livello nazionale? Sì, nazionale, loro hanno tutti i ponti in tutta Italia e questo praticamente arriva ovunque, cioè lui accede da un ponte X che non ho capito se sia zona Lazio o dove cacchio è, e sta continuamente a mettere portante muta, a mettere musica, a fare rutti, a fare pernacchie, a mettere registrazioni degli altri radioattori. Guarda, se l'avessi io sotto mano gli darei una piccola lezione, da. Sì, ma tu immaginati quanto può essere imbecille uno che si compra un apparato radioamatoriale che ha il suo costo rispetto a un baracchino, per poi fare questo tipo di cose. Non lo trovo davvero da deficienti solamente, però hai ragione anche tu. Attenzione, perché esiste quello che si chiama radiogoniometro, che se vogliono ti dà esattamente la dislocazione da dove l'onda radio sta partendo, l'emissione radio sta partendo, quindi che stia attento, perché poi se una volta che lo scoprono se le becca a tutte, anche quelle che non ha fatto, anche quelle che hanno fatto gli altri, capito? Eia, Antonio, già lo so. Bello strumento il radiogoniometro, io spero che lo becchino, così si possono ascoltare il questo in santa pace, perché è una cosa allucinante, se no. Cosa ti volevo dire? Che ne hanno beccati altri in passato di questi portantisti. E sai chi si è scoperto che erano? Radioattori, vecchi radioattori, magari che ce l'avevano a morte con qualcuno, oppure che erano gelosi marci per qualche torta ragione e disturbavano le frequenze. E questo è quando poi disturbano una frequenza, è un conto. Peggio certi li hanno beccati disturbando le frequenze aeronautiche, come quello di come si chiama quel paese maledetto? Oniferi, ne hanno beccato uno da Oniferi che praticamente entrava con il nome di Maverick e dava, come dice lui, informazioni utili per i piloti. Hai capito, è spostato di mente che deve essere. Ma poi tu immaginati, quando dico, metti a repentaglio la vita di centinaia di persone perché devi fare lo scemo, ma boh. E questi quando sono arrivati in gruppo, no? I veri corpi, l'hanno trovata in questa specie di casa bunker, mezza blindata, e sulla porta sai che cosa c'era scritto? Top Gun, come il film, no? Top Gun Maverick, che era il pilota del film. Immaginate quanto era guasto Maverick, doveva aver sbattuto la testa. Allora, io qua lo dico e qua lo nego, ma c'è un radiatore in quella zona, chissà perché dicono che sia lui. È un tipo molto polemico, molto strano. La zona è quella, la città è quella. Adesso non voglio dire niente. Praticamente è entrato in un forum inviperito perché stavano parlando di questo fatto. Cioè non hanno fatto né nomi né cognomi, questo è entrato in un forum inviperito a dire che rinunciava a tutti, ve la faccio vedere io, ve la faccio pagare, e credo che sia quella persona lì. Da che città? Come tu? Che città è? Oniferi. Guarda, fai orecchio, che modula sul ponte nazionale Cisar. Boh, da vedere. Fatto sta che per una cosa del genere, se ti trovano modulando su un ponte aeronautico, comunque disturbando, come si dice, il radiofaro, hai finito di vivere, giustamente. Ti mettono i ferri e ci buttano la chiave di cioccolato. Riprendi Gianni. Te ne dico un'altra? E dimmela. Io sempre sono per la pace, però su un giornale, nessun giornale ha fatto il nome, però su un giornale hanno messo le iniziali, qui abbiamo quindi il paese, un po' la località, che è un po' periferica, le iniziali, che casualmente corrispondono ai primi, come dire, corrispondono al primo nome, al secondo nome e al cognome di questa persona, che modula attualmente. Caso strano, no? Ti ripeto, hai capito, perché siccome è caso strano, di questi scemi ce ne sono parecchi, e anche qua nella 27 ne ho sentito che fanno delle cose che da persone che modulano da 20 anni, se non anche di più, non ti aspetteresti. È giusto che la patente di radioamatore la dia una persona che non sono spostati di mente. Perché? Perché si è nella condizione di poter amministrare o comunque utilizzare delle radio con cui puoi fare danni per una questione di frequenze e per una questione di potenze. Quindi quando sento non è giusto, la dovrebbero dare o non la dovrebbero dare, non è così, non è assolutamente così, ma non lo dico perché adesso ce l'ho io, perché lo dicevo anche prima, bisogna avere testa, poi non è certamente la patente che te la dà la testa, però bisogna essere persone in modo e capire, essere responsabili sui problemi che si possono creare, anche a volte vitali, quindi eviterei. Eia, tu sai cos'è che ha fregato tutta la categoria? Praticamente prima le apparecchiature amatoriali costavano un occhio alla testa, no? Anche un portatile ti costava un bel. Adesso invece ci sono questi portatili cinesi, 30 euro ti compri un B-band a tutti gli effetti che ti fa 136, 174, 4,10, 4,80, non so se mi spiego. Figurati il danno che puoi fare con un portatile del genere, conoscendo le frequenze. Figlia, ma ti ripeto, non è tanto l'educazione, non è neanche chi hai a casa, perché io da poco avevo sentito il figlio di uno che è figlio di uno, che il padre lavora nelle forze dell'ordine, che questo scemo a mezzanotte stava chiedendo un'urgenza su un canale particolare, quello si chiama procurato allarme, e lo stava facendo sulla 27, sugli 11 metri. Eppure, quindi, non è tanto neanche la radio che hai, se sei scemo e basta. Cioè, ho fatto una chiamata di una falsa emergenza? Ma procurato all'OMSI. Praticamente la versione breve è chiunque volontariamente, ti dico la versione breve, chiunque volontariamente dà la falsa notizia di un pericolo o di un reato è punito, eccetera, eccetera. Detto ciò, riprendi Gianni, io vado a bere un attimino, vado a bere e vado in bagno, sono un botto. Certo che stavo dormendo, sto stando dormendo in accesato. Poi i pubblici abitati tanto ci sono tutte le parti, c'è fuori, c'è frequenza, c'è tutte le parti, però c'è la passione in gamba, non è questione di cibino di radiamatturi, a chi mi dice radiamatturi che fanno la cattata lo stesso, perché io l'ho sentito su un internazionale facendo ruti, pernacchie, prendendo in giro la gente, facendo ricattare, come fanno il 27? La stessa cosa, quindi non c'è da distinguere. Queste distinzioni che si fanno sempre tra cibino e radiamatturi hanno tutto un po' brunale. No, già. Certo che la percentuale dei CB, che sentendosi un attimino liberi, perché come dicevo prima senza una targa di riconoscimento, di borgheria ne ho sentito in percentuale sicuramente più nella 27, poi non sto dicendo, non sto facendo di tutta l'erba un fascio, perché io l'ho sempre detto che ci sono delle persone, dei CB, che potrebbero essere benissimo degli ottimi radiamatori, e fra questo metto te, metto Roberto, metto tutta una serie di altre persone, capito, che non ho mai sentito comportarsi male, quindi... però permettimi di dire che sicuramente proprio perché c'è una libertà diversa fra i CB, diciamo, spopola un attimino questo atteggiamento eccessivamente anarchico, cosa che fra i radiamatori sicuramente c'è, ci sono anche le macchine, però diciamo che sai, un attimino devi stare più accorto. Appunto, come ho detto prima, dipende sempre da un fatto di testa. Io ho sempre rispettato tutto coso, non ho mai rotto le scatole a nessuno, non ho mai fatto parlare, non ho messo per tutte queste cose che non ho mai fatto perché so che non si possono fare, non le ho mai fatte. Diciamo che come tutti ho usato apparecchi che magari non si possono usare, cose, però sempre comportandomi con la dovuta maniera, capito? Non andando al di fuori di certe frequenze. Diciamo che io la 27465 non mi sono mai passato, lo faccio a sconto, dopo non mi metto mai in altri canali che non si possono usare. Ho detto questo, è sempre una questione di testa, perché si sa che non c'è questa libertà che dice anche Marco, è una questione di opinioni sue, perché non è come dice lui, non è come dice lui, bisognerebbe sempre rispettare le cose come sono, comportarsi bene in frequenza, eccetera. Io penso che comunque se ognuno di noi ha un po' di testa rispetto a queste cose. Guarda, ti ripeto, per assurdo stai facendo più tu una distinzione fra CB e radiamatori, perché per me sono tutti quanti un'unica cosa, cioè una persona a cui piace la radio, un amante della radio, un un operatore radio, questo lo siamo tutti. Soltanto che diciamo che aver fatto un esame ti abilita a poter andare in altre frequenze e utilizzare apparati diversi, e neppure nemmeno come poteva essere la patente della moto di un tempo. Una cosa era averla fino al 125, un'altra era averla oltre il 125, e quindi voleva dire che un attimino avevi fatto un esame che dimostrava che avevi le conoscenze per evitare di fare danni. Poi questo è tutto relativo, perché come abbiamo detto fra i radiamatori lo stesso ci sono fuori di testa, e quindi non ti ripeto, tutto sta a valutare la persona, non sicuramente quello che la persona lo accredita come persona seria o meno, non è il pezzo di carta che ti accredita come persona, tu lo sai meglio di me, io non sono cambiato certamente perché ho preso un pezzo di carta e non cambierò mai, o meglio, se un pezzo di carta mi serve per vantarmi non è certamente quello la patente a radioamatore, o ben altro, di cui vantarmi e di cui anche vergognarmi. Sì, però questa di interisce a me, guarda, io faccio ascolto, mi va bene così, adesso non libero perché posso fare ciò che voglio, ma perché magari è una frequenza vicina dove puoi affrontare più discorsi, più cose, questa qua. Mi fanno dei passaggi, ripeto, continuamente non mi attivo, non vedo una cosa continua, un discorso che si può portare sia da un tempo, hai capito? Cioè non vedo molto, ecco, è la stessa cosa come nella frequenza del canale 45, si salutano e tanto per favore se arrivate quel posto, ma un saluto, un abbraccio, una tettura in paletta, basta. No, sicuramente no, ti ripeto, se poi consideri che per fare quei discorsi ci stai rischiando una multa, una sanzione, una denuncia penale, sicuramente non ne vale la pena. Comunque è importante essere sempre educati nella vita, evitare di nascondersi dietro il fatto che non si è di presenza di fronte alla persona, all'interlocutore. Dopodiché questo è dato dall'educazione che ciascuno di noi ha avuto e sicuramente anche dalla moralmente come è messa la persona. Poi è triste che uno strumento così nobile come la radio, perché è la radio che ha fatto sì che di colpo la geografia avesse un'estensione completamente diversa, perché di colpo le distanze si sono raccorciate assolutamente, che uno strumento così nobile poi alla fine regalasse in mano di trudioni, di ruttoni, di pernacchioni, di persone che ne fanno di tutti i colori. Poi attenzione, anch'io lanci scagli la pietra che non l'ha mai fatto, attenzione, però sicuramente una cosa è farlo ogni tanto nei confronti di persone magari ti sono antipati, ma lo fai una volta, dopodiché ne ravvini. Ad esempio c'è uno adesso che sta sempre citando i punti, alla fine crea anche problemi perché c'è un relè che eccitandosi e disecitandosi senza lasciargli il tempo, alla fine lo bruci. E cosa hai fatto? Chissà come è contento Marconi. Sì, si sta girando nella tomba, ma non tanto Marconi quanto Tesla, perché Marconi è un bel ladruncolo. Ho letto anch'io su Nikola Tesla, che lui ne sapeva due strisce là. Mi pare che abbia inventato lui una sorta di telegrafo senza fili, non mi ricordo cos'era. Un apparato a scintillazione, non ho capito. Praticamente tu trasmetti un segnale e lì un generatore creava una scintilla, no? E in base alla cadenza della scintilla potevi trasmettere un messaggio, una roba del genere. No, veramente Nikola Tesla era quello che ha inventato realmente la radiodiffusione, soltanto che era una parte di un'invenzione ancora più grande che si chiamava teletrasporto. Fatto sta che, siccome era mezzo fuori di testa, o meglio così veniva considerato, perché le sue invenzioni e le sue scoperte erano talmente al di sopra della mente umana che molto spesso, soprattutto in quel periodo, non venivano capite. Un furbetto dal nome Guglielmo entrò nel suo laboratorio quando lui stava appunto sviluppando questa idea e da lì gli carpì appunto il segreto della costruzione, quindi della prima radio. Però a lui non gli dava conto perché non era quello che voleva scoprire, capite? Era qualcosa di molto più importante, quindi non aveva dato molta importanza all'emissione di onde radio, comunque alla trasmissione di onde radio. Ecco, è tutto un ruba-ruba a me in quei tempi, tipo il discorso di Bell, come si chiama quell'altro, Miucci? Sì, assolutamente sì, Gustavo se non sbaglio, Bell rubò a Miucci l'invenzione del telefono, ma perché? Perché Miucci non era nella condizione, perché disagiato economicamente, di poter registrare l'invenzione, quindi di brevettarla. E allora Bell, l'americano furbo ladro qual era, si mise nella condizione di carpirgli l'idea e portargliela via. E chiaramente, come si dice, fare il brevetto, brevettarla, quindi. Esatto. Ti ringrazio. Vedo che sei ferrato, Matteo, mi fa piacere. Ma non solo, tu devi sapere che c'era un altro ladro che si chiamava Edison, sempre americano, che elettrificò la prima città. Tu immaginati che l'elettrificò a corrente continua, a corrente continua. I cavi, siccome la corrente continua ha una certa caduta di tensione, per mantenere la tensione i cavi erano talmente grossi che, passati da un palazzo all'altro, oscuravano quasi la visione del cielo, capito? E aveva cercato in tutti i costi di mettere il bastone fra le ruote a tale Nikola Tesla, che invece con la corrente continua aveva scoperto che, inventato che, con una sezione ridotta di cavo la caduta di tensione nel momento in cui era alternata era molto più limitata, tant'è vero che si potevano utilizzare cavi molto più fini. Allora cosa fece? Per dimostrare la pericolosità della corrente alternata, prese un elefante che aveva compiuto durante uno spettacolo in un circo, uccise tutta una serie di persone, e lo elettrificò, gli scosse e lo ammazzò, per dimostrare appunto quanto era pericolosa la corrente alternata. Lo spagnolo chiedo mio hermano della spada della scusia fino alla Sardinia delante. Sì, adesso vi lascio, dai, adesso vi parlate con lui. Ciao, ciao, che devo andare a farmi la luce. Ciao. Ciao, ci sentiamo. Chiedo mio hermano della scusia, l'operatore del terreno della città di Sassari, che si percorderizza in compagnia del romano Marco. Avanti, Marco. Io lo chiamerei, ma non ne voglio attaccare già. Tanto arriva nel QRM. Ma tu sei in una posizione super e con un'antenna altrettanto super. Invece sai chi stava arrivando forte prima? I tedeschi in FM. Sentivano ove come niente. Solo che con loro è impossibile parlare, un casino quella lingua. Che provo, Tento Spagna, tento amico, se copi la stazione Condor. A te, come no, scusate l'amico Condor, che fai la vado. Basso, io ho staccato, ha risposto. Però no, non mi piace, qui in AM è un casino. Banda laterale, per esempio, lui arriva a Santiago sì. Se fosse in banda laterale sarebbe chiaro chiaro il collegamento. Esatto. Solo che questo apparato non è a banda laterale, sto usando l'Alan 48 XL. Allora, questo è Alan 48 XL Multi. Sai perché già? Li sto usando a rotazione, gli apparati. Prima usavo il Superstar 3009, poi ho usato il Comex 4000, adesso questo. Poi userò gli altri, insomma, in modo da farli lavorare sempre. Io lo faccio così lo stesso, ogni tanto li accendo. Quando c'è domani il Topec 2024, che ho sempre nel mobile, e il portatile, che non lo uso. Ah, tu hai il 5024 alla scena mobile, sacrilegio. Pensa che me ne volevo comprare uno su internet. Mi piace. Ha un aspetto non so che, è diverso dagli altri, con quella cornice in gomma, poi quell'aspetto tutto spartano, non ha niente, c'ha 23 canali in tutto. E mi sarebbe piaciuto. Lo vendono in buone condizioni su internet. Io ce l'ho perfettamente nuovo, prendo una calattaffa, tutto. Ce l'ho perfettamente nuovo di te. Caspita, funzionante, sì, vabbè, sei nuovo, sì. Allora, quello lo dà anche con la staffa e con il microfono originale. Ma neanche io c'ho il microfono originale. Peccato per la staffa, perché senza staffa come l'attacchi in macchina, gliene devi adattare una. Io mi piace attaccare benissimo con mettere un cassettino dentro il cassetto e via, fatto il gioco. Metti una colonna esterna, gli attacchi lo spinotto dietro per la tappa avanti e va più giù. Praticamente praticamente ogni ora suona, la mezz'ora fa il suono singolo. È piccolino mi. Dopo ho preso lo Shan perché mi è sempre piaciuto l'orologio a pendolo. Oh, conta che puoi sempre silenziare la suoneria, cioè gli carichi solo l'orologio e non carichi la molla della suoneria. Ma non è che non lo riattendo, allora, lo sapevo che non lo chiamavo male, io lo lascio per fare perché c'è una cosa, c'è questo funzione, devo andare tutto. È come un apparato che ci ho, c'ha ecco, c'ha questo, c'ha l'altro. Se mettere il microfono amplificato, io devo abbassare l'ecco, abbassare la potenza, abbassare questo, abbassare l'altro, allora è inutile che avere quell'apparato perché se non puoi utilizzare tutte queste funzioni, tu magari non le usi, però sai che ce le ha, capito? L'eco lo attacco ogni tanto giusto per fare un pochino di scena, non dico scena, ma fare una chiamatina diversa, però poi lo levo. Preferisco uscire nature. Ah, vada. Noi c'è un eco professionale, di quelli di lusso. Quanti ce ne sono? Di solito viene preferito sempre l'eco Colt dai camionisti, ti ricordi? Degli apparecchi Colt degli anni 80, anche 70 mi pare, praticamente tutta la auto origine da lì avevano un eco che piaceva molto e allora l'hanno adottato tutti. Ma il mio era un eco all'infinito, cosa che quelli non ce l'hanno. Il mio eco è all'infinito, se tu rilasci il microfono abbassato continua a ripetere. È più lento, invece quello del Connex 4000 è lento e breve, lento e breve. Ma non lo farei volare come quel lento veloce, c'è la regolazione. C'è la regolazione esterna con la manopola. Eia. Io sai dove lo volevo mettere il toccai, fisso in macchina. Fisso perché se per attaccarlo a me lo copro con un giornale per non farlo vedere al limite. Mettere solo un'antenna ogni tanto quando esco. Certo che un po' pesante deve essere rispetto a quelli attuali, piccolini. È massiccio, okay, ma è un apparato massiccio. E poi è un peccato quello lì. In macchina non c'è un graffio, è proprio lucido, tutto un bello pimpante, capito? E se vuoi te lo faccio anche ascoltare, lo prendo e lo attacco, 5 minuti ci vogliono. Se vuoi già, io sono qua per altri 10 minuti, da, e poi vado. Sì. No, no, no, mi stavo guardando una cosa alla TV. Ah, vabbè, là, allora. Vado, ho preso il letto. Buonas tardes, amico de Spagna. Tuo segnale basso, non copio bene. Avanti per l'Italia. Vai, non devi qua sotto. Ascoltando sta, via. No, adesso fare solo. Stavo pensando proprio a te, Antonio, ho detto, lui è sotto quella mansarda, come farà? Diventa un forno lì. Quanto, già si sta aspetta che sta fuori adesso, vai, se vuoi tirare lì con il salto e la sono regalando, non volevo. Capito? Così me lo piazzo. Facciamo la metà, un di più, se no cazzo mi dico che fa... E come ci vuole l'assegno, ci vuole a fianco. Allora, con questo apparato arrivi 9.25. Oh, yeah. Li sto usando a rotazione, capito? Questo è l'Airline 48 XL Multi. Anche qua c'è caldo, magari non come te. Mamma mia, oggi è, guarda, pensa che sarà domani e dopodomani così. Ma la mattina deve passare alle 5 per andare a portare la roba a lavorare, paio d'ore. Alle 5 devi uscire. Vediamo. alle 6 usciamo, perché poi ci vogliono alzarli. E che lavoro è? Siete un cancello, sono un addotto io circa. Se vado a loro per mezzo 10 mi addotto di cose, mi tocca andare in costume da bagno lavora. Eia, ma cancello elettrico? Eia, cancello elettrico di quelli scorrevoli. Attenzione Marco Condor, se ascolti il doppio rum, cambio. Tappa già, caspita, se quello è il toccai esce bene, bello, bello, mi piace. E questo è il toccai, ti piace. Poi se lo vedi ti piace ancora di più perché è nuovo di zecca, proprio, cioè, in una casa la strafa non capisco dove l'abbia messo e cosa. Sì, è bello, la modulazione credevo uscisse peggio io, capito? Invece no, è buono. Aspetta, e cosa te ne fai tu? Vendimelo, vendimelo. Te lo faccio vedere, dai, te lo faccio vedere, così te ne innamori. Ma fammelo anche toccare. Cazzo Maria, come lo toccare? Boh. Io se riusciamo stasera, se non lo devo fare, ci riusciamo, faccio un giro, e te lo faccio vedere. Ma sì, volendo sì, ho già, magari non prestissimo perché ancora non è rinfrescato. Poi se vuol venire Leoncino. A proposito, mi ha chiamato Leoncino stamattina, tarda mattinata, mi ha mandato una marea di messaggi, non ho capito perché. Oh, che adesso. Come segnale, com'è? Sta essendo con 5 watt, esatto. 5 watt esatti, dai. Sta parecchio, non mi dà manco stazionare, addirittura. Allora, con questo apparato, sì, 925 radio 5. E con l'altro 930, così è? Sì, mi pare, sì, 930. Magari l'altro ha più watt, non lo so. Appa, comunque va bene, dai, è un bel apparato questo qua. Aspetta un attimo. Cazzo, questo spagnolo me li sta gonfiando, guarda. Ma cosa? Lo sento io che ho un disturbo elettrico in zona. Arrivo a Santiago 5-6. Ma lo sento io, scusa. Sento come fai mi appassi. Quindi ti piace questo apparato? Eia, ascolta, mi devi dire una cosa. Ma l'indicatore dei canali è illuminato oppure no? Sì, c'è la luce verde, sì, illuminato. Ascolta, dimmi se ha 22 canali più l'11 alfa oppure 23 canali più l'11 alfa. Mi sa che 22 più l'11. Ah, quindi 23 non ce l'ha. Vediamo, adesso controlla. Alla faccia di Pomponio me lo compro il toccai. No, sbagliavo, c'è il 23 più l'11 alfa, ma... Ah, buono, buono, no, perché qualcuno ha detto che era solo 22 canali più l'11 alfa. No, qua c'è segnato spino al 23 che è al 23. Ehi, ascolta, quando moduli, se tiri il cavo del microfono, tende a uscire oppure rimane bello saldo? Copiato Gianni? Stavo a parlare con Marco, aspetta, dimmi, cosa hai detto, non ti senti? Siccome il cavo ha la spina anziché la vite, no? Il cavo del microfono, se tu lo tiri tende a uscire o rimane bello saldo? No, qua è stata fatta la modifica, cioè lo spinotto a 4 punte. Ah, ecco, così non è originale, ho capito, da. Beh, almeno, e prima si sfilava? Come andava a tirare ne usciva, capito? Sei in macchina e tiravi dall'altra parte e usciva, allora per quello è stata fatta la modifica. Ecco sì, quello è un po' seccante. In macchina anzi è molto seccante perché bene o male devi tirare un po' il cordone, ma questo è perfetto, questo si allunga un bel. L'hanno fatto morbido e bello elastico. Uno è che praticamente ogni volta usciva e poi qua qualcosa, quattro cose, ti saremmo anche attaccare gli altri microfoni, tutto, capito? Se mi mettono un amplificato lo puoi mettere. Ascolta, dimmi se il cordone del microfono è elastico oppure rigido. Elastico. Ecco, quindi magari un pochino lo puoi allungare, da, ho capito. Va bene. Sì, bello, bello, mi piace. Sì, è vero, è bello. E adesso l'ho attaccato per farlo girare un po', perché ce l'avevo fermo un bel tempo, ma quello che fa sempre che fuggi. E poi se vuoi andare sul 23, proviamo se ce l'ha, dai. Ehi, proviamo, Antonio, 23. Proviamo. Marco? Eccomi qua, niente da fare? No, ragazzi, probabilmente non ce l'ha qua al fatto, ce l'ha segnato ma non qua al fatto. Ehi, sai perché ero già? Io sapevo che il Comstat era 23 canali, però dicevano che di serie 22 canali più 1. Può darsi che se si trova il quarzo si possa mettere anche il 23. Ehi, se trova, ma la GBC è dove qua tenevo, anche su internet, per iniziare come quello. Ho capito, va. Vabbè, bell'apparato. Comunque già, fallo girare ogni tanto, perché se lo lasci fermo è peggio. I condensatori si scaricano, gli elettrolitici, e può dare problemi, insomma. Più li usi, meglio è. Io insomma, avere troppi apparati qua non va bene, dai, ce ne sono troppi. Scaldalo, perché sono troppo attaccati, se lo dai. Non fa. L'ho messo in ogni piano una stazione, va bene così, non è che lo voglio riempire. Avevo anche io il testo di mettere le macchine, lo sa, al posto dell'altro, e volevo mettere questo qua. Poi se c'è la scarpetta e macchina, meglio ancora. Questo qui va, ma c'ha pochi canali, se per dire vanno sopra, cosa, non sento più nessuno, se vanno sul 40, no, è quello che c'è, si è limitato, perché se dopo un apparato questo qui se ne frega di molti, molti altri. Eia, conta che c'ha 40 anni il Tokai, 40 anni ha. Ascolta, sì. A me basterebbe anche 23 canali, perché noi siamo sempre o su 5, su 10, alle volte 14 era, raramente sul 45. Marco, tu hai la possibilità di registrarmi la modulazione, io voglio sentirmi come esce. Però come te lo faccio sentire già? Col cellulare. No, casomai uso un registratore vero. E poi te la faccio sentire verticale, perché se te lo rimando qua va male. No, rimandamela qua, che voglio vedere più o meno come esce, dai, tanto per sapere, per avere un'idea. Perché mi metto che il radio è un bel bello, sembra amplificata. Antone, tu sai che non stai uscendo? No, oh, 120. Oh, chiamala, chi è? Ciao, Lello. No, sono io, Marco, è talmente sensibile questo microfono che come lo sfiori subito preme una portante, è molto sensibile come microfono. E aspetta che prendo il registratore. Vai, dai, anche Antonio lo registra. YBLUTO è registrato. Dai, che ti senti la voce, Antonio. Come radio, come ti sembra questo Tokai 5024, versione diciamo personalizzata? Esce bene a voi. Kappa. Ma vedi, tante volte gli apparati di una volta sono meglio di tanti altri, o no? Aspetta, sono quasi pronto, Gianni, se vuoi puoi andare. Ehi, allora, 7351 tutta la ruota, un po' a capo al tonnello rischio, e anche a Marco Corno se non è geloso, avanti. Vuoi sentire il tutto? Spero che lo ascolti io prima. Ecco, aspetta. no, ho sbagliato io, ecco, adesso arriva. Ho già che ascoltarlo dal registratore di persone è un compito, se invece è ritrasmesso praticamente c'è la degradazione anche del mio microfono, capito? E non è da giustizia, ho capito. Esatto. E vabbè, comunque ho visto che va molto bene, dai. Va molto bene, ogni tanto bisognerebbe attaccare, hai ragione tu. Ogni tanto mi pare che lo lasciamo fisso qua e ogni tanto lo attacchiamo. È una bella presenza, ti sto dicendo che lucido, lucido, lucido, se lo vedi te ne innamori. Ehi, ascolta, come arrivo con quello Smith? Non va. Che magari quello, non so quanto è preciso, vediamo un po'. 9,5 come l'altro. Ah, come l'altro, solo 9,5, com'è possibile? Questo qui 9,5 arrivi anche con l'altro. Ah, vabbè, ma di solito ero 9,20, no? Attaccato? No, liscio. Può essere, dipende da con che apparato stai modulando, con che apparato è modulato un concerto per segnale, non lo so. Io mi ricordo così per farsi che mi sbagli. E poi io cambio apparato spesso, capito? Anche tu ogni tanto mi pare cambia apparato. E io li faccio girare un po' tutti per scaldare, dai. Ma diciamo che... Aspetta che faccio una telefonata che... Non so come mai, ancora mia moglie non è rientrata, che sta lavorando, ma non vorrei avesse avuto qualche problema. No, infatti, chiama, chiama. Pomponio. Precati. Pomponio. Break a 10. Avanti il break. Buonasera, sto chiamando Alfa Bravo. Barato da Franco, mi puoi dire come sto arrivando di segnale? Sto provando un apparato, grazie. Allora, vieni avanti per il segnale. 1, 2, 3, 4, prova. Allora, il segnale è 9,5, la radio è un po' bassina però. Ecco, no, ho usato un po' basso il mic gain, comunque l'importante era il segnale. Segnale identico anche qua, da parte mia. Mi dici la zona? Allora, via Nizza, via Nizza. Ho capito, via. Perfetto, allora già va bene. D'accordo. Rimane in ascolto, buon proseguimento. Sentivo anche sotto una stazione che chiamava, non so se fosse preparazione o meno. Allora, c'era uno spagnolo che chiamava ripetutamente, però c'è troppa propagazione, arriva male. Ascolta, ma sei Franco che modula in VHF anche? Sì, Franco, sì, che opera anche su. Sì, sono un vostro ascoltatore, diciamo. Aveva parlato anche in PMR una volta, un anno e mezzo fa o due. Ah sì, ora non ricordo, ma può darsi di sì. Sì, avevamo parlato in PMR 446, giusto un passaggio per prova. Arrivavi anche bene, per l'antenino che ha l'apparato arrivavi bene, il mio apparato. No, ma anche io utilizzo antenini perché a quella frequenza c'era buona notico, non è che... Giusto, se devi andare fuori per attaccare un'antenna esterna. Non, diciamo, che è sufficiente la sua, anche perché la potenza è abbastanza alta, 500 mW in meno. Queste sono parecchie. Sicuramente mi hai visto qualche volta a Platamona, ho sentito ogni tanto da Platamona o andavi a fare un giro. Guarda, o hai visto la mia macchina con l'antenna da baracchino, oppure hai visto la macchina con l'antenna bipanda per l'ascolto. Ok, io sono Marco comunque, Condor. Sì, non non so per caso Marco che sentivamo spesso anche con Fittuccio. Io sono rientrato 3 anni fa al baracchino e io avevo sospeso per tanti anni. Ah, ho capito, no, perché sentivamo sempre un Marco che c'aveva un Yair, credo, piccolino, eccetera, che si faceva sentire di MR, però lo accompagnavamo quasi fino a Platamona. No, negativo, Yair negativo, in PMR fino a Platamona no, mai. Infatti. Dipende dalla zona, ma penso che da Osido, parte bassa, anche io parlavo con Sassa di oltre, a Volcala, immaginate. Cappa, ho azionato adesso il compressore e la radio ha migliorato tantissimo. Perché praticamente qua con i segnali che arrivano benino, abbastanza bene, inserendo quello aumenta la modulazione. Chi ha la modulazione bassa gliela aumenta. Sì, io sono anche un po' bravo causa condizionato d'aria. Per me chi viene al vero, non so neanche se regoli, non vorrei che fischiassi. Ecco, adesso l'ho aumentato un pochino, ma non so neanche se funzioni su quello. È un vecchissimo tutto questo affare e niente, forse dovrebbe essere aumentato. Caspita, è aumentato adesso anche senza compressore arrivi bene, capito? Col compressore è meglio, là, meglio lasciarlo inserito. Questo è un Alan 48 Excel Multi. Ah, quelli nuovi che stanno facendo adesso. Ho visto qualcuno anche che si programma da computer, ma molti sono esageratamente cari per quello che fanno, ecco. Sono ma proprio cari. Tipo il Cobra, quelle marche lì sono un po' fuori di testa, considerando anche che l'utenza non è più come una volta. In effetti sì. Certi sono cari, a me non piacciono questi, prima di tutto in SMD e poi programmabili da computer. Preferisco stare sul classico Superstar 3009, si trovano ancora nuovi, perfetti, non danno rogne, componenti classici, capito? Ecco, è questo, sono tutti uguali poi, Superstar, Galaxy, Pluto, tutta la famiglia, sono tutti uguali come apparecchi. Diciamo tutti la scheda. Sì, infatti, praticamente tutti montano la scheda EPT 3600 nelle varie versioni, ecco. L'ultima che hanno fatto mi pare sia la 15C o 15F, non mi ricordo. Sì, poi basta cambiare la risposta del PLL, fanno c'è una risposta di banda intorno a 25-30, credo, giù di lì. Avanti che vuole entrare, io ho lasciato in parcheggio 2 persone, attenzione Antonello, oppure attenzione Gianni o più room se ci sei. Io che ci sono, ciao Gianfra. Ciao Gianni, come? Come se senza ecco? Ma non sto usando, una parecchia degli anni 70. Sono migliori. Quando ancora non c'era l'eco, c'erano i Turner più 3, più 1, quelli da mano, quelli celestini che erano terribili, altro che quelli a fare con l'eco. Turner più 2 USA, dicendo. Quello là, con quella forma prova. Costava una fortuna, però c'era una capsula che veramente micidiale, piede elettrica, bellissima, proprio professionale. E questo non è male, ho il microfono normale, Gianfra. No, non ho capito. Ho detto che anche questo non è male, perché ha il microfono normale. Sì, se no no, va bene, va benissimo. Andavano bene quelli da una volta, erano apparati bellissimi, purtroppo costavano cari all'epoca, c'erano i passini, insomma, tutta la cattedrale, insomma, il campanile. Insomma, erano fatti bene. Tanto è vero che molti li trovi ancora in giro, funzionanti. E oramai sono fatti tutti in maniera industriale e non sono eccezionali, ecco. Ascolta, come mi senti già? Sono chiamato un controllo al telefono che stava parlando. Di te so più o meno dove sei, quindi mi regolo anche meglio. Prova. Devi segnale, la radio poi è relativa. Segnale 9. Molto più basso di quando ero nell'altra zona, vero? Ehi, ma non so se c'è l'affidamento a questo svizzero, Già, dovrebbe arrivare molto più forte da te, Gianfranco. No, non è detto. Non è detto perché non abito qui dove ero prima. Sassari ce l'ho di fronte, quindi più o meno dovremmo essere costanti lungo tutta Sassari. Solo che l'antenna non è altissima, è abbastanza bassa, quindi. Sì, 9 con picchi positivi a 9.10. Anche qua è manca normale. E comunque dovrebbe segnare di più, io gli idea a Gianni con lo Smitter. Io di solito alla te arrivavo 9.15, 9.15 o 9.20, quindi anche lui dovrebbe essere più forte. Prova, Marco. Cioè io mi ricordo che da te arrivavo sul 9.15 con l'altro apparato. 9.15 o 9.20, non mi ricordo. E così adesso? Oh, con lo stesso apparato. Non lo so cosa sia successo, adesso sei 9.15. A picchi di 9.20. Oh, vabbè, comunque sia. Ah, ti volevo chiedere già, ma tu hai il microfono originale Tokai? Ma sai perché esce forte anche? Non è un normale microfono. Se tu lo apri dentro c'ha un circuitino amplificatore o compressore che sia, insomma, o amplifica o comprime la radio per farla più forte. Sì, è precompresso, io lo so. Lo so, non l'ho aperto, ma lo so che è così perché ne ho avuto diversi degli apparecchi. Uno l'ho detto, l'ho dato a volte perché la staffa e tutto era perfetto. Gli ho dato a Walter, questo qua è perfetto, ma gli manca la staffa. Mi dispiace quello, dai. Oh, Franco, pensa che il Tokai nella sua assoluta semplicità mi stava piacendo, me ne volevo prendere uno da internet quasi, in buono stato. Acceso, ma per questo attrezzo ho messo i baracchini un po' strani, ma sì, ne ho visto io questo, proprio il Tokai, quello famoso, quello celestino, quindi sta su eBay, proprio non ho visto anche una fesseria, però oramai perché però ne sono trattati, se non è proprio perfetto. Ma dimmi che cambia apparato, perché sta scaldando molto, c'è il piede che è incandescente, nonostante credo che stia andando 3 watt questo apparato, però chissà perché, scalda parecchio. E lo fa anche a me, almeno da quando è arrivato il caldo lo fa anche a me, con i vari apparati, e sono solo 5 watt. Ok, bene. Ho già, stanotte vengo col piede di porco, e ti frego il Tokai. Tutti spariti. Rieccomi. Com'è? Buono anche questo. È più calda anche, la modulazione è più calda. Sì, beh. Sicuramente molto, molto più spettralmente pulita di quel frutto. Mi sa che è da buttare via. Perché non disturba niente. La bomba non vola mai, invece fa qualche armonichetta, se la fa, mi sa. Ma può darsi. Adesso ho sentito delle leggere scariche al microfono all'inizio, adesso sono sparite. io che stavo muovendo. Stavo muovendo cercando il pulsante, ma non ho proprio, non mi ricordo più come era, ma per sapere un po' con quanto sta andando, eccolo qua. 5 watt, 5 forse, siccome questo è abbastanza avaro, dovrebbe essere un po' meno di 5 watt. Fatto. A proposito di armoniche, di roba del genere, avevo visto in internet un bel filtro da mettere magari in casa per sicurezza. Era un filtro a 5 celle, quindi non il classico ZG che dentro è ridicolo, ha una filtratura minima, quasi nulla. Quello è a 5 celle, dovrebbe filtrare bene. È raccomandato addirittura anche per l'uso con lineari, ecco. Sì, però l'importante è che l'apparato non devia dall'inizio, il filtro è un accessorio sempre, se poi praticamente te lo ritrovi già che parte in armoniche, il filtro fa sicuramente male, non lo fa, però insomma bisognerebbe scegliere gli apparati che ne hanno di meno, anzi che non ne hanno possibilmente. Questo ad esempio in teoria dovrebbe essere, cioè è quasi omologato diciamo, da. Però la potenza è normale, dovrebbe avere sul tuo circuitino all'uscita che limita, ma almeno nell'FM500S c'è, perché l'ho visto, qua non si sa, non l'ho mai aperto. L'FM500 Inter che credo sia, ce l'ho avuto quando ero... Cioè, anche quello è un vecchio apparato. Dimmi se succede qualcosa, se aumenta un pochino il segnale, vediamo un po'. 1, 2, 3, 4. Non credo che aumenti molto, sarà 9, 10. Qua non è aumentato, non ho notato differenze, ho provato ad attenuarti, ma mi sembra uguale il segnale. Cosa hai toccato? No, gli ho aumentato un pochino la potenza, però non... adesso avevo 5, però non... Cioè, massimo, è qua su 10 watt. Non ho notato, forse abbastanza lontani da notarlo. Ok, io sto usando un'antenna... un compromesso, diciamo, una Ringo della LEM, una mezz'onda, e hanno fatto la porcata di mettere una, rispetto alla Ringo dell'Echo, e hanno messo una spirale molto molto più lunga, di conseguenza hanno dovuto abbassare lo stilo, e praticamente è lunga solo 4,34 metri totali, e praticamente ha poco stilo e tutta bobina. Sì, è rientrato Gianni anche, ho sentito, era 9,20 Gianni. Sì, infatti con la bobina intelligentemente sicuramente perdono qualcosa. L'ideale è la mantova 1, non c'è niente da fare, mantova 1, mantova 5, ma meglio la mantova 1, penso. Sono le antenne che durano di più, le più robuste, le più, insomma, sono il top. Avanti Gianni. Sì, questo è vero, ma noi è che abbiamo l'abitudine di non provare antenne nuove, in continente le provano diverse, io ho visto sui forum che ci sono diverse antenne che sono molto buone, oltre a quelle che conosciamo noi. Prima c'era la Standard, c'erano tante altre di antenne che erano buone, lo stesso come a livello della Mantova. Io ce la Mantova, però non so se la 1, se la 5, se la turbo, perché è stata modificata la mela. Oh già, conta che sono 170 euro a botta, per esempio la Sirio Game Master costa sui 170 euro spedita. Sì, non so, ma magari senza radiali, c'è quello che magari non hanno fatto i radiali perché se no non la può piazzare, perché non la deve attaccare al muro e cose, e tocca, ma c'è quello che magari sul tetto non può salire, è tipo l'uncino, ma deve piazzare da giù e poi deve uscire dal tetto, quindi non interessa che abbia radiali l'antenna. E quella è un'intervento ideale per queste situazioni, capito? Hanno fatto il tetto e non hanno fatto la bocca, per accedere al tetto bisogna accedere da fuori con il carrello e con la gru. Diciamo che è una spesa troppo grossa, lascia perdere. Mettere anche la superturi è un casino. Andale, Gianfra, come va questa radio? Ma sto uscendo in radio, già fa. Basso. Oh, troppo strana. Sembra amplificata, però anche un po' fuori. In che senso? Tutta, cioè, rispetto a quell'altra di Marco, c'è un abisso, l'attitudine era molto più, cioè se 9.5 tu arrivi 9.20, però come radio quella di Marco di qua la riceviamo molto meglio, assolutamente comprensibile, mentre la tua è strana, sembrava amplificata, boh. Amplificata o amplificata? Ma molto, però, quasi satura. Poi boh, questa è la richiesta di banda di questo più stretto, boh. Aspetta. Allora, io sto utilizzando il mic normale, però il proprietario dell'apparato precedente ha aumentato la modulazione. Sì, la tua è perfetta, non c'ho problemi. Quella di Gianni, non so se sia la stessa radio che aveva prima, però su questo risulta più strano. Ma infatti mi pare che abbia cambiato apparato di nuovo, non sono sicuro. Ehi, ho cambiato apparato. Guarda adesso la radio com'è, c'è un fratto. Adesso va meglio. Adesso va meglio. Si sente... Mi è sembrato... Il passaggio era un po' zero, ma mi è sembrato di sentire qualche rumorino di fondo, però se fa il passaggio un po' più lungo, magari. E forse era un po' troppo amplificato, aveva una deviazione maggiore. Allora, avanti, Gianni. Ehi, adesso va bene, interessante che sia questo, c'è la regola, cioè non c'è problema. Per quanto mi riguarda è a posto. Ma è forte? Ancora un po'. Lo sai, no? Gli apparati sono molto produttivi, fanno più direzionati, però Franco, non sei uscito, ogni tanto lo esci. Adesso una domanda. Aspetta che sto toccando. Questo c'è. Adesso sto uscendo, lo vedo dal segnalatore. Gianfra, prova adesso se sei contento, guarda adesso come va. Aspetta che sta là, aspetta che devo abbassare, ecco, prova, guarda a vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, parla più piano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre superiore a quella di Marco, magari, è troppo, mi sembra stanza, capito, cioè, è come se fosse un aereo praticamente, non per nulla i microfoni degli aerei sono i migliori perché tolgono anche il rumore dei motori, no? Tu invece c'è un microfono che il rumore dei motori non te lo toglie. No, non ci siamo, non è questione di vento, è questione proprio che è troppo amplificata. Se accendo l'altro sicuramente ti sento bene perché quelli si incassano tutto quanto, però non sugli altri non va. Ma sai che cos'è questo? È un MC60? Cosa vuoi dica? Troppo tirato. È troppo tirato, bisogna... non si devono sentire i rumori che ci sono dietro. Questo è un marco normale. E niente. È così. Oh già, io non sento nulla perché siccome mi stava venendo il mal di testa, ho abbassato il volume abbastanza. No, vabbè, comunque questa qui è la sua modulazione tipica. Ah, ho capito. Va bene. Io poi questo è omologato, quindi tira dentro poi tutto, non è che io ti ascolto abbastanza normale, poi soprattutto col volume basso. Il mio invece è omologato. Omologato e omologato. E questo è pseudo omologato, pseudo, c'ha qualche canale tu in chiuda. Vabbè. Gianfranco, tu con che apparato stai uscendo adesso? Un piccolino, dalla famiglia di quel microfono. Quello piccolo. Il più piccolo che fanno, se non ricordo male. In quale? No, è così vecchio. Aspetta che questo cos'era? Cavolo la vecchiaia che... No, vabbè, sbiadito. No, non è sbiadito. Te lo dico subito. 480. Cappata. Io vabbè. Andare. No, già esce bene. Vabbè, qui c'è la voce nasina, ma è normale per te. La voce che hai ti rimane, però la modulazione è buona. Sì, soprattutto adesso che ogni tanto... C'è anche mal di gola, ok, con questo caldo, sono tutto intasato, c'è la sinusite, mi mancava, adesso mi è venuto anche questo. Ti dicevo, il... quello è il 50? No, io ho 140. Ah, ho capito il più... ho capito. Però ti avranno detto che qua non vanno bene nei confronti degli altri apparati, proprio perché escono come devono uscire, quelli là sono troppo larghi, insomma ci si è abituati a certa larghezza di banda. Guarda invece quando c'è propagazione, anche adesso se ti metti in FM e senti i tedeschi, sono perfetti, loro non la utilizzano quasi più la M, anzi probabilmente neanche la utilizzano più, sono tutti in FM e arrivano proprio perfetti. Ma io non l'ho utilizzato, non erano mai come gli apparati, mi pare, di AM, c'è solo l'FM, mi pare, in quegli apparati lì. Utilizzavo sempre l'FM e a voglia una telefonata, poi qua che non c'è QRM in FM, è proprio QRM zero, si attacca solo se sono segnali furti, cioè lo squelch automatico. Infatti un po' che non scapisce perché non la vogliamo usare, perché non si voglia usare, forse perché non si può mettere, perché è più suscettibile, perché appena metti l'eco, quelle cose lì, in FM cambia la deviazione e diventa un macello. Tu su quello ce l'hai, Marco, l'FM? Sì, K, su questo apparato sì, AM-FM. Proviamola, va, vediamo la differenza. Ok. Aspetta Gianni, anche se qua si vedono gli inghippi, perché in effetti è molto amplificata, però in FM riesce evidentemente a sopportarla meglio dalla M. Pagato. si sente molto bene. Poi io qua, QRM è zero, brutto, non si sente nulla. Il silenzio è perfetto, come VHF, è la stessa cosa. Appa, qua sembra di essere in VHF in effetti, solo che questo apparatino mio, un lieve difetto, si può dire così, allora ricevendo in FM sembra un pochino stretto, perché come modulate sento appena strappare leggermente, andrebbe un po' allargato in la deviazione in FM. Tu fai nulla. Ah, io no, io casomai lo faccio fare a Vittorio. Oh, guarda, ti sento benissimo, cosa c'è da toccare? Ti sento benissimo, non ha nessun problema. Sento bene a te, sento bene a Gianfranco, molto meglio della M, perché Gianfranco è in M basso, invece qua lo sento meglio, cosa strano. No, già, ti parlavo di ricezione io, se ricezione è come fosse un po' stretto, ecco. Perché come la senti? Sento leggermente strappata. Appena appena, tu di più perché sei troppo amplificato già. Sì, se vuoi ti chiudo il microfono, se no non esco, cazzo ce l'ho al minimo. No, si sente tutto quello che c'è sotto, è micidiale. È sensibile al microfono, Gianfra, è quello il problema, è sensibile al microfono. Ah no, non è questione di sensibilità al microfono, è questione che è troppo alto. Capito? È troppo alto, anche questo volendo lo puoi aumentare qua del triplo quadruplo, però poi non ti sente nessuno. Vabbè, io devo scappare perché mi è stato un telefono e me lo voglio guardare, sennò poi non ci capisco niente. Ci sentiamo magari più tardi. Ciao Gianni, ciao Marco, buona serata, buon proseguimento, a dopo. Ma ciao Gianfranco, ci sentiamo nei prossimi, avanti Gianni. Sì, dai. Ciao Gianfra, ci sentiamo, buona continuazione di serata, dai. Non è che ce ne sia molta, domani è lavoro. Andare, io riprendi Marco. Domani è lavoro col caldo, che è peggio. Dito che ci devi andare, via da te. Aspetta, ripassiamo in AM, dai. Perché? Sì, no, perché strappi un po', in FM tende ad accentuare praticamente un po' la tua amplificazione. E va, invece una M che già è più larga di suo risulti meglio. Ci siamo? Ecco qua, sì, meglio già, perché qua la M mia è già più larga, quindi sei più bilanciato. E a me non dipende da me, dipende da te. Sicuramente l'apparato c'è qualcosa. Qui Lucri. Attenta, Gianni, ovvio, chi c'è? Tu non sei andato ieri a vedere la Torre Aragonese, c'era una mostra di coso, come si chiama, di... Faccio. C'erano tutti gli elmi, le spade, eccetera, eccetera. Questo lo faccio la conosce una ragazza, una puta sera a me la mostra. Sì, vabbè. Allora, cultura è quella, se non te la vuoi fare, cultura. Solo la cultura ci manca. Era una mostra medievale di quelle. Addirittura Marco l'ho tutto vestito, gli ho messo l'elmo, la rete, cazzo poco pesa quella rete che si mettevano Marco. Peserà 4 kg. Ma quella rete che si mettevano per 12 kg con la spada. Dopo gli ho messo l'elmetto, gli ho dato una spada di quelle grandi in mano e gli ho fatto le fotografie. A me, Luca, non a me, al figlio, a me. Io ho capito, hai messo così, così imbranato, già lo so, l'ho visto, l'ho trovato ieri a Porto Torres. Poi l'ho trovato a Claudio, no, già. No, negativo, tutta la gente che vede, guarda, c'era una fiumana, ho fatto la fotografia dalla torre, dal terrazzo della torre, ho fatto la fotografia verso via Sassari, verso il corso, va. Tu vedi la fiumana di gente che c'è. Troppa, è un casino anche parcheggiare. Ti credo. Allora io, no, sono andati lì, una passeggia da poco, con i bambini, poi sono piccoli, voglio un palloncino. Gli prendi il palloncino, dopo 10 minuti non gli va bene perché il palloncino non vola. Tu pensa. Allora mi hai trovato tu, sono dovuto andare di nuovo giù a tutti, vicino al comune, di pallonzino, prendo quello della pressione o con l'alfa, perché c'era la pila dinamica, quello suo rimane in aria, no? Invece quello là no, perché era un sai, quei puffati siamo robot, quelli lì, c'erano proprio il robot, ecco. Assolutamente, io con l'alfa, ma l'ha cambiato. Poi gli ho detto, mi prometto, questo è qui quella ragazza là, no? Mi prometti che fai da bravo? Sì, sì, sì, sì. Dopo stavo io rompendo le balle. Allucinante qua. E io non lo so da Marco, mi sono dovuto fermare due o tre volte perché vuole fare l'acqua, ho dovuto comprare l'acqua prima in un bar, poi nell'altro, e poi aveva sonno, e poi qua, e poi là. E non fa andare con i bambini piccoli perché non ti fanno gustare nulla. Solo che quando fini ce li hai, per forza li devi portare, dai. Era una cosa, siamo andati a vedere i carri noi, i carri allegorici, e poi siamo andati a vedere questa mostra, ci abbiamo fatto una bella passeggiata. Io la dichiaro ciò, ti credo, ti credo. Abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo mangiato una pizza, una birretta, una chiacchia, poi ci siamo rientrati. Poi io sono invitato in piscina, non sono andato. In una casa? No, pronto adesso. Sì, la pizzeria non c'è la piazza. Dove cantano? Beh, non c'è la piscina lì. No, oggi devo andare in piscina lì a Merevitale, ci andavo lì a aiutami a ma sì, dove sono i riprenditori lì a aiutami. Matteo? A Matteo, sì. Caspaga. Anche Liliana voleva andare la cosa, se invece andare a mare ci andiamo in piscina tutti e tre, e no, non ci vedo più, ci vogliamo a mare, almeno lì vedo un po' di gente e cose, non credo che dobbiamo andare a fare in piscina. Ma chi? Ma chi? Mia moglie voleva andare in piscina al Vangatto invece che andare al mare, ha detto ci andiamo in piscina, no, non ci vengo in piscina, almeno vado al mare, trovo un po' di gente che conosco, faccio la chiacchierata, in piscina andare sui figli di papà. Non è detto, cambiamo ogni tanto, no, bisogna andare sempre al mare, se non provo in piscina. A parte il fatto che lì spendi, adesso 8 euro, 7 euro, non lo so, tutto il giorno, tu andate ti fa una bella doccia lì, tu non aspetti mai qua a casa. Ti porti un paio di panini, un paio di birretta, un po' di non so, di Coca-Cola lanciata, cose così. Poi come andate, ti fa la doccia lì, arriva a casa, sei pulito e la ti tocca. Ti porto il cambio. Tanto vediamo, la prossima settimana se riesco ci vado, non lo so. Sì, a Walter Paradise mi piace perché c'è il mare mosso, fanno il mare mosso, tutte queste cose qua. Scendo da quello scivolombe alto, cazzo, poco come Biasi. Io vado anche, mi lascio andare anche a pancia a terra, forse un mese di bizzini. Diciamo sempre bambino, perché anche ci divertirci, non so bambino. Io per cosa non ci sono voluto andare quando me l'hanno chiesto? Avevo idea che ci fossero solo bambini. Ma cosa? Ci sono anche famiglie, ragazze, ragazzi, ma un po' tutti, bambini. E poi ci sono giochi che i bambini manco possono fare perché sono pericolosi. C'è quello delle onde, per dire, c'è la quarta, non tocco io, figurati se toccano i bambini. Non c'è una certa ora, mettono in moto questa piscina, tu sai in piscina normalmente, poi una certa ora attivano le onde. Si formano queste onde giganti e tu devi andare contro per arrivare fino al muro. E ti dirò che ti divirti. Ah, ho capito, là. Però sempre devi saper nuotare, perché se non sai nuotare è meglio che non li vai a chi ha fuori. Poi devono intervenire lì. Le onde, diciamo, ti fanno divertire, però l'acqua è alta, non è che sia bassa, non tocco io sono 1,82 m, sarà minimo 3 metri l'acqua. Luca, premi la portante. K9:35 con questo apparato, con l'Alan 48. Ci siamo di fronte, cioè praticamente di fronte, ma ci mancherebbe. Invece un bel forte, ci riporta gli indiani anche. Certo che ho tutti i baracchini diversi, cioè il segnale non è mai uguale. Con uno arrivi 9.30, con uno 9.25, con uno 9.35, è un casino. Io la tutta già sfratta, tutta rifatta, tutta... non è originale, va. Che cosa? Là? L'antenna? Sì, la mia antenna è stata tutta ancora ristrutturata, che non è originale. Con Luca ne abbiamo piazzate radiali, con Coso, con Rocchi di Gatto ne abbiamo rifatto tutto quanto, ho messo il cavo della massa nuovo più grosso, abbiamo fatto di nuovo pulito tutta la bobina, tutti quanti gli stili e cose, l'abbiamo tutta ripristinata. Eia, comunque qua Luca è in una zona praticamente, poi è tutto libero, c'è il ponte nuovo lì tutto vuoto, quindi arriva una fucilata. Quindi qua Luca e Roberto Quadrato sono i due più forti. Roberto Quadrato. Roberto Quadrato arriva sparato come te forse. Adesso con questo Smith non puoi fare la prova valida. Forse sì, però ci dovrebbe essere lui adesso qua. Ecco, pagato. C'è un medicato, non si può stare qua. C'ho un PC acceso, il ventilatore è a 50.000, però c'è troppo caldo, non lo vedo. Anche oggi giornata di passione per tutti, e pensa che domani e dopodomani è così. Pensa a chi lavora, lavora sotto il sole con questo caldo è da morire. Poi già tu mi hai detto che non hai il clima in quel mezzo, com'è possibile? Ma questi sono scemi. No, non ne ho, se hanno messo solo nell'acqua che usano loro per andare a Tisi, qua, là, Monolfo, Santa Teresa, se hanno messo solo loro, perché c'è che io... sto scendendo salendo, mi prendo qualche malanno, poi per climatizzatore non è quasi malato. Boh, vabbè, basta metterlo un pochino basso, anche a me mi ha fregato certe volte, quando lo mettevo troppo alto, adesso ho imparato un pochino a modularlo di più. Oh, yeah. Vabbè, sì, c'è caldo comunque. Oggi è entrata tutta gente a rate, comunque 27. A metà serata c'era Graziano, poi è entrato quindi Gianni e Antonio Grobbe. Poi Antonio se n'è andato, è entrato Antonello, poi Antonio se n'è andato, almeno forse all'ascolto, è entrato Franco, Gianfranco, ora è entrato Luca. Interessante che il canale sia stato sempre pieno, a tutte le ore. Quello che interessa, perché se non entra non trova nessuno, non la tiene di più. Invece se trova gente si continua, e vabbè. Ma comunque... Già si riprende, un vero livello di ieri. Ascolta, lo sai che quando mi chiama Leoncino addebita sempre la chiamata a me? Oh, cazzo, poi sicuramente avete la condizionata, ma qua sto sclerando, cioè ci sono 33 gradi qua dentro, sto sclerando. L'umidità l'ha condizionato e qui non lo possiamo accendere prima che si sfasci. Sta accendendo l'umido che manda, no? C'è il deumidificatore che fa scendere l'acqua, cioè l'umidità che c'è nell'aria. E poi c'è questo qui, lo passo, lo passo. Il bidone, quindi non lo stiamo usando. Ma stavo dicendo, io qua sono il ventilatore, mi... Invece qua ci sono le correnti, da parte tutte le finestre, sono a letto, sdraiato, come passa l'aria a Biaccaretti. Non so se sia più fresca l'aria fuori, ma non credo ancora, no? Ma cosa ne so? Meglio di decido, se mi scidi, allora siamo, stiamo sclerando a casa. Basta uscire, ma si può fare un giro così mi guardo l'apparato tuo. Capito come fa Leoncino? Quando chiama, sento, la persona che la sta chiamando ha chiesto di evitare la chiamata. Ma che la sua? Ma anch'io sono col credito basso, certe volte non ne ho. Sai cosa faccio? Allora io chiudo, c'è riuscito la chiamata, e poi nel caso lo richiamo dal fisso, al telefono fisso. Sì, ma non conviene infatti chiamare dopo che ti fa la credito, no? Da debito, perché poi cosa succede? Paghi di più, invece chiudi e poi lo richiami. E così è giusto. Ma sa perché lo faccio io? Perché se rispondo col mio cellulare pago, se richiamo. Io invece uso il telefono fisso, capito? Così paga mamma. Ma dal telefono fisso gli fa pagare una quota a tua madre. Non va bene, dai. Fa pagare un bel sud. Perché se non è abilitato per i cellulari, paghi cazzo una vacca di là, non... No, già, c'è abilitato. Io chiamavo spesso cellulari e costa poco, non costa molto. A meno che abbia un contratto particolare, a questo c'è un accordo, perché se non è abilitato ti spara un certo cifra allucinante. E io me ne sono andato a prendere dall'Enel sì, e sono ritornato all'Enel perché ci arrivavano conti esorbitanti di 350-360 euro. Quando sempre abbiamo pagato sulle 120-130. Mi metto all'Enel normale e do la disdetta all'Enel sì. Fatto sta che l'Enel sì mi manda 70 euro perché avevo pagato in più. Fatto sta che mi manda questa cosa e tutto è chiuso lì. Mi metto con l'Enel e mi arriva la prima bolletta dell'Enel, 120 euro. E dopo un paio di giorni mi arriva anche quella dell'NRC di altre 350 e poi abbiamo telefonato Burrelli e poi l'avete fatto, guardi che io non ci sono più con l'NRC, che tanto non manda la bolletta, dice aspetti che controlliamo. No, controllate bene perché non ci sono più. No, non dice vabbè, è come se non avessimo mandato, adesso cancelliamo. E poco non mi fido io di queste cose al di fuori dell'Enel, perché mi pare quella che abbiamo noi, cioè l'Enel di una volta era Enel Servizio Elettrico, ogni tanto viene a bussare invece il solito o la solita, Bogiana, siamo venuti per applicare una riduzione del costo della corrente, no? E praticamente sai che è gente di Enel Energia, di cui non voglio sapere niente perché c'è un bel di gente che si è lamentata su internet. Sì, ma è così l'energia, non bisogna farlo, perché sai che cosa mi hanno spiegato? Che l'unica cosa è stare sempre con la vita principale, perché poi se tu ti metti altre vite, usufruiscono di quella principale, paghi passaggi, paghi tasse in più, paghi tutte queste cose qua. Tanto è vero che siamo andati a guardare dentro, io ho chiamato anche un elettricista per farmi controllare a vedere se si era attaccato qualcuno al mio compattore, perché non mi sembrava possibile che noi spacchiamo tutta questa corrente, se prima paghiamo un tanto perché adesso dobbiamo pagare di più, punto interrogativo. Con chi è che consumavi molto? Con il sì. O meglio, loro gonfiavano le bollette, deve essere. Un bel di tasse, un bel di roba, no? Pagavo più di tasse che di quello che consumavo. Ma tanto loro ci tentano, capita, mandarti la bolletta, se tu sei un ignorante o un anziano che non sa queste cose, paga e si caglia avuto. Eia, siccome l'interessata è mamma, no? Forse sanno anche l'età perché sanno tutti i dati. Buongiorno, telefonano, buongiorno, vorremmo parlare della titolare. E io chiedo... Buongiorno, vuole comprare spaghetti primavera? La titolare, ripetisce. No, qua si parla con me. Oppure spesso... Vengo a casa anche me. Buongiorno, siamo venuti per applicare una riduzione del costo della corrente, no? Volevamo vedere l'ultima bolletta, sai perché, che gioco fanno? Prendono i dati, il gioco del mabò, utente della persona, dopodiché certi fanno il gioco sporco, firmano nome tuo e ti iscrivono nell'energia, capito? I più lonfi. Qualcuno che cerca di passarti, ma non ci riesce. Chi è? Vabbè, capite cosa fanno? Che certe volte sanno il numero utente e firmano il nome tuo e tu ti ritrovi un gestore che non vuoi. No, c'è da denunciare allora, se fanno una cosa del genere c'è la denuncia. Luca, esprimo qua. Hai capito cosa mi hanno detto? Che queste ditte qua, oltre a quella che c'è fissa sempre, tipo Enel, Telecom, eccetera, eccetera, sono tutte ditte che caso ti fanno pagare un bel tasse, più tasse che di quello che consumi. Comunque giù, aspetta 2 secondi che sono... quel programma sta facendo musica. E va là, però si è concentrato nel discorso qui. No, niente. Io adesso tornerò a Telecom, eccetera, eccetera. Ma Luca non era morto? Che... chi poco spende, poco ha. Ma Luca non era morto? E che veramente chi poco spende, poco spande? Ammazzati. Chi poco spende, più spende. È stato intercettato, oppure? Ma è brosciu. sono mai venuti da voi quelli di Mondo Libri o Eurolibri, anzi? No, negativo, ma con questi della... Luca! Eccetera, eccetera, sono al telefono. Con il telefono... Allo passo! Interessa, arrivederci, boom. Allora, quelli... Allo passo! Vi vengono a casa dicendo di voler fare un censimento. Hola! La signorina era venuta, e io, baba... Va bene, rispondi, quanto che libri leggi, ogni quanto li compri. Luca. Quindi ti vogliono rifilare un contratto. Luca. A Eurolibri, che ti mando libri ogni mese, mi pare, col bollettino per pagarli. Praticamente non te li stacchi più. Luca. Ah, quella tua, mi sono tutti due, l'ha avuta mia moglie. Luca. È al computer. Ora la cornetta che mondi al casa ti aspetta. Luca! Vediamo la Lucretta se non ti risponde. Luca! Comunque, Antu, sei mai andato tu nella Torre Aragonese che ci ha proprio toro? Quasi sempre, io sono nato lì, mi chiamano Antonio l'Aragonese. Ma non è dire che ha fatto io, a parte gli scritti. No, mai stato. Bello, veramente, c'è una mostra, come si chiama? Già mi hai capito, una mostra. Non mi sento. E fatto sta che siamo andati con Marco, siamo saliti su, c'è la scala chiusa, ha fatto il ferro, si sale si va su, poi arrivati in punta c'è l'atterrata proprio un bel grande e lì toccavo un venticello così bello. E ho vestito a Marco, gli ho messo l'elmetto, gli ho dato l'asfalto, qua mi ho fatto le fotografie. Capito? Mandare qualcuna su WhatsApp. Marco, che ti voglio vedere, io mandami la prima che inizi a mangiare, che poi mi viene il bollettamento di stomaco. Marco, mio figlio, non lui. Ah, allora non c'è da niente. Pensavo che fosse stato in cuore a cuore con Marco Condor, ma via. Luca non c'è cascato, mi. C'è cascato, per quello che non stai rispondendo, c'è cascato e qualcuno ha tirato l'acqua. Non si sente niente. Detto che era una mostra medievale, non veniva il nome. Oh, yeah. Mamma mia. Comunque ho già quelle reti che hai detto tu, quelle reti di protezione per le spadate. Lo sai che resistevano ben poco? Ho visto una spadata vera di spada medievale su una di quelle reti, praticamente se la mangia. Vero. E allora se la mettevano a fare, poi sono 3,5 kg, l'ho preso in mano, se non riuscivo a mancare a fare così qua. Luca ha risposto prima. Anch'io quando me la prendo in mano non riesco nemmeno ad alzarla dal peso. Perché non ti si alza più? Infatti è capovascia dall'ora e tempo. Te scherzi già, è vero, ho visto un video di una ditta americana che produce armi vere, spade, spadoni, samurai. Praticamente quelle reti servivano più che altro per colpi di striscio o colpi così non troppo forti, diciamo. beh, vi lascio, vado a mangiare, ciao ciao. Ciao, ma come fa a bucare con la rete? Se vedi come fitta la maglia è un casino. E che sono pesantissime, guarda che mettertela in testa quella roba lì addosso, ti pesano un casino, perché te la devi infilare nella testa e poi ti prende tutte le spalle e metta, diciamo, sino al petto. Ehi, ciao Luca, buona cena. Ehi, non sottovalutare l'acciaio, già, le spade in acciaio. Sono talmente affilate e appuntite che se la forza è sufficiente di un uomo adulto, insomma, già te la passa. È una cosa incredibile, infatti. Io sapevo che servivano per quello, proprio per proteggere il fisico dalle spadate, diciamo. Beh, aiuta, certamente aiuta, se arriva un colpo blando, per dire, no, non molto forte, già ti protegge, però c'è un limite. Appunto c'è un limite. C'era uno che... Eia. Allora, questa ditta americana fa i video su YouTube, praticamente con quella spada medievale, no, sicuramente l'avrei vista lì. Praticamente mettono due maiali morti, appesi, con una spadata praticamente li taglia tutte e due. Non mi ricordo come si chiama la ditta americana. Come niente, con un colpo di spada taglia la testa maiale, oppure li ne taglia due appesi, uno a fianco all'altro. È allucinante, pensa cosa fa alle persone. Ma c'erano diverse di spade comunque, c'era più lunga, più corta, c'era il livello di pugnale. Mi pare che i nomi siano anche, c'è una che si chiama Durlindana. E poi c'era un, come si chiama, un elmetto che si chiama Pentolaia. Ce ne sono vari di elmi, il classico elmetto medievale, diciamo, da... quello un po' a punta forse. No, ce n'è una a forma di pentola proprio, si chiama pentolaia, è quello che rimane proprio come la pentola, rotondo così. Ah, sì, già l'ho visto, ho visto anche quello. E ce n'è tutti i tipi a quei tipi. Comunque già, quella spada ti sto dicendo io, col manico compreso alta roba di 1,5 metri. Io non so, l'ha presa Marco in mano, ce l'ha in tutte e due le mani, più di sbucare un bel. È già bella la roba medievale, ha un certo fascino. Una volta facevano anche a Sassari la mostra degli strumenti di tortura medievali. C'era la ruota, c'era un po' di roba, c'era. Dove la facevano? Allora, a Sassari la facevano al padiglione dell'artigianato. C'era la Vergine di Ferro, che praticamente è come un sarcofago che ha le punte, no, le lame. Come chiudono ti infilza. E quelle lì le avevo viste, al padiglione dell'artigianato. E ho visto diverse di mostri. Era così bello, prima c'erano i cigni, avevano le distrutture, se ne fura buco. Si sono mangiati anche i cigni dalla fama che c'è. Sì, sono i cigni, perché il pavone, non l'hanno rubato al monte, non c'erano i pavoni, le gabbie con i pavoni nei giardini dove vanno a giocare i bambini, nel parco che c'è. C'erano i pavoni, c'erano quelle tartarughe enormi, un sacco di animali c'erano, le oche che giravano attorno al giardino libere. Allora, i pavoni li ho visti vari anni fa. Si risomagnati deve essere. Ma non dura nulla qua, capito? Le cose belle le vogliono mettere, però se vedono che non durano, non vanno lì, vivono, rimane tutto abbandonato. Però è strano che li abbiano rubati i pavoni, perché lo sai che i pavoni quando c'è pericolo cominciano a strillare, devi sentire come urlano. Non so, perché non mi si dà vicino, li vado da mangiare, mangiavano dalla mano, non devo mettere un volo, ma ce l'ha mangiato. Bello il pavone comunque, c'ha quella rotta, sembrano tanti occhi quelli che si vedono. Ehi, l'ha fatta anche la rotta, la guardiamo e l'ho fotografata. sveglia. Addirittura, l'ho visto in un film, nelle carceri turche, in un carcere turco, tenevano i pavoni nel recinto, nel cortile. E quello ha chiesto, come mai i pavoni qui dentro? Dice che in caso di pericolo, tipo incendi o pericoli di vario tipo, cominciano a urlare come ossessi. È un allarme naturale, dai. Eglia, praticamente sì. Questo è allucinante. Ce n'è uno, da poco tempo c'è uno che andava a cavalli da corsa, no? E c'è questo, praticamente c'ha questo pavone nel cortile. E fa sempre così, si mette a gridare. Chissà se il pavone è buono da mangiare anche. E beh, certo, è buono. Ma troppo bello per mangiarlo, là. Le galline sì, tanto sono giabite di aspetto. Poverine, che sono animali dati con la pena di morte, tipo gli agnelli, i porcetti. Io non ho il coraggio di, non avrei il coraggio di ammazzare niente, nemmeno una gallina. Ho il cuore troppo tenero. Penso invece a quelli dei paesi che scorzano l'agnello. Boh. Mi sembra una gente cattiva. Gente che potrebbe farlo anche con una persona. Le persone rubi sono. Trattano male anche gli animali, i cani, così. Io l'ho visto un pastore prendendo abbastanza un cane. Che bello. Perché non uscivo da casa. La piga ne fuori. E niente, ha preso quanto l'ha preso a colpi di bastone. Io guarda, non stavo sulla mia pelle a vedere una cosa del genere. Me la vendicano i cugini. Così bisogna fare anche con le mogli, mi. Col bastone. Ehia! Ma no, le mogli direttamente bisogna uccidere. Oia, oia, scherzo naturalmente. Non mi piace, per esempio non potrei fare il cacciatore perché non mi interessa di ammazzare un animale che se ne sta vivo e tranquillo. Ecco, il tiro al piattello invece è una bella alternativa, se proprio vuoi sparare a qualcosa che vola, spari al piattello, non ammazzi nessuno e gli animalisti sono anche più tranquilli. Ma tu vai a pescare, il pesce lo ammazzi. È vero, andavo a pescare. È vero, è vero, quando ci penso infatti, il pesce non è che non soffre, il pesce soffre lo stesso, solo che non può urlare perché non ha le corde vocali, non ha la bocca, cioè, no scusa, la bocca ce l'ha però non può emettere suoni. Tu dici tu, qui da un grongo, come fa? Che schifo! Il grongo è allucinante, si appurcia tutta la lenza, fa un casino unito. Si attorciglia tutto, capito? Si attorciglia tutta la lenza. Poi quando tu vai a te lo grida, fa lui. Io pensavo che facevo con mio amico, lo fa facendo, no? Perché ne ha preso uno, un principiante, no? Che l'ho portato a Grumi. Ha preso un grumo di 4,950 kg. E so Maria, cos'è un boa? Se c'è un mio babbo, l'ha preso a poco forse. E allora un principiante che non voleva mai venire a pescare perché non gli piaceva, ho dovuto quasi costringerlo, poi ha preso un sarago di quelli grandi, da un chilo qualche cosa. Un'altra volta l'ho portato, ha preso l'orazza. Guarda, ho detto, basta, ma non ti dico più. Ehi, quello è il culo del principiante. No, ma quel drongo ci siamo dovuti mettere, allora praticamente a Porto Torres, cioè, prima dove imbarca la nave, adesso ce l'è presente, dove imbarca la Tirrenia, lì al Molo Asi. Allora invece di andare verso dove, verso le imbarcazioni, andavi dall'altra parte del molo e c'è un muretto che va in punta al mare. Fino alla fine questo muretto cammini, poi arrivaci anche in macchina, però qui devi tornare a fare la macchina perché non ci gira nessuna parte. E arrivi fino alla punta, noi l'inverno in punta ci facevamo praticamente una tettuia, perché se pioveva noi eravamo riparati, ci facevamo un nylon, mettevamo questo nylon sopra, faceva angolo, ci mettevamo questo angolo, legavamo questo nylon. E poi buttavamo i filaccioni, c'era questo muretto, c'era la scalinata per salire, se buttavamo i filaccioni dalla parte del mare di Furie, e facevamo delle rocce giù, e tu dal muletto buttavi il coso. Tu immaginati passare da quel muletto, cosa tu avrei dovuto fare? Sono dovuto scendere io nelle rocce al buio, qua, casino, questo mi arrombo. Un asciuccio, ma giubilato da andare giù. Chi è che ha avuto il coraggio di staccarlo dall'amo? Chi? Io l'ho staccato dall'amo, nello tagli con le forbici, perché se le inguia. Ah, non è che gli hai aperto la bocca e gli hai tolto l'amo, no? Sì, a parte che ti mette tutto di moccio come l'anguilla, perché è moccoloso. Me lo immagino, mamma mia, per carità. Poi 4 kg e tanti deve essere bello grande. 4 kg 950. Quindi quasi 5 kg di bestia. E allora un pezzo capo che io non dico così, forse non ne ho più visto. C'aveva una testa enorme, molto grandissima. Il corpo però se la tale, era lungo e grosso. E vabbè, tutto attorcigliato alla lenta, ha fatto un casino per tutto, mamma mia, un aggravaglio. Ma invece l'abbiamo fatta portarlo su, a voglia, ha giubilato pure il corpo, ha messo il corpo sotto, quando era vicino, e non si ci giubilò. Com'è il grongo? È buono? Com'è? Come l'anguilla? Allora, il grongo, prima cosa, come lo peschi, lo devi mungere. Devi mungerlo perché ha le spine in tutto il corpo, quando tu lo mungi vanno verso la coda, quindi in tutti i casi tu gli elimini le spine che hanno il corpo, le fai scivolare mungendolo verso la coda. E bisogna saperlo fare, se hai saputo far bene il grongo è buono. Ma come è grasso, tipo l'anguilla? È grosso, sì, se è grosso, un po' grasso è meglio farlo arrosto, è come il capitone. Io il grongo non l'ho gustato mai. L'anguilla, sì, l'anguilla arrosto e mi piaceva molto. Solitamente il grongo si fa la parte dalla testa al centro, si fa in umido, e la parte della coda fritta, così si fa. Però ognuno appunto fa come vuole, eh. Quando è così grosso bisogna anche saperlo cucinare perché c'è di nausea, è pesante. Ecco. Bella bestia. Bene, che ore si sono fatte? 10:30, ui. E qua c'è, continua a esserci caldo. Se si bolle, capo, in casa si bolle. Cosa ci dobbiamo comprarci il filaccioni? Dobbiamo andarci a filaccioni. Proprio pesca solo, esclusivamente a grunghi e a murene. È poco di te, momì. Poi la murena, mamma mia. Una volta in un documentario ho visto la murena che andava, che guardava il sub, no? Poi ha fatto questo scatto, un missile, in un secondo, in mezzo secondo era addosso al sub. Come no, era sparata. No, era un sub di esplorazione. Questa murena è uscita alla zana, la stavo guardando. Ha fatto un balzo, Gianni, un missile. Che strano, di solito non ti attacca se non la spari. Io sapevo così. Se la spari la manchi, allora sì che ti attacca. Ma c'ha dei denti, è un cino che te le straccia tutto, carne quanto c'è. Forse sai cos'è già, che magari questi escursionisti stavano continuando a girare davanti, la volevano guardare da vicino, non lo so, probabilmente si è infastidita e ha fatto un balzo, guarda, e il sub terrorizzato ha cercato di evitarla, di scappare, ma in un balzo era su di lui, mi pare che gli abbia morsicato la pinna, per fortuna. Invece questa bufonia ha sparato un barracuda, di cui un bel russi, l'ha preso in pieno, l'ha preso al centro, invece che prenderlo in testa, lui l'ha mirato la testa, ma si è spostato di colpo e l'ha preso al centro. Beh, questo barracuda gli si è avventato addosso e gli ha bucato la tuta a 5 mm, per fortuna c'è la tuta, se no me ne avrebbe stracciato la carne. Il cacchio, anche il barracuda si avventa. Ah no, c'è un predatore nei paracuda, non lo sai quello che ha fatto. Fanno praticamente, si mettono, io li ho visti lavorando, si mettono 4 o 5 e fanno il cerchio attorno ai branchi di pesce, il pesce salta per paura di essere mangiato, loro come salta, tu lo pigliano al volo. Ma io credo che comunque, come tutti i pesci, a parte Murene Gondi, credo che come tutti i pesci scappasse se tu lo colpivi. Se mi sto perso l'ha attaccato, capito? Caspita, una bella bestia. E mi pare che di aspetto assomiglia a Luccio che di Acqua Dolce. Sì, sì. Tu pensa che quando stai pescando e saltano loro, sembra che butti un cantone. Un cantone. Ah, un mio zocco che guarda. Ma poi questa gomma devo ringraziare che arrivava tutta a 5 mm, che era in inverno, perché se non avessi avuto quella tutta lì, quella muppa, mi avrebbe scalfito la carne, non ce l'ha fatta perché era grossa. Caspita, chissà come reagiscono anche le... come si chiamano quegli squaletti nostri? Le levardesche. Mi chiedevo sempre se le ferivi con la... o fucile, se si avventano o se scappano. Una volta siamo andati alla risonanza e si butta. Ma che è quello che funziona? Stavo dicendo, siamo andati in comune con un cognato a pescare, a fare pesca subacqua, insomma, lui doveva pescare con la canna e io fare pesca subacqua. E cazzo, dall'acqua abbiamo visto questa verdesca enorme passata, mi ha detto, vai tu, fa che spara, la cazzo di debacco, non ci ho voluto scendere. Perché io non so come reagiscano, sono, mi pare, della famiglia degli squali, credo, però non ce la fidassi, no? Il morso deve essere discreto. Sempre due fili di denti hanno. Come già? Hanno sempre due fili di denti. Come gli squaletti, no? Come praticamente consumano una fila, c'è la fila di dietro pronta a sostituirli. Non è consumato, è stato sempre affilato. Poi aprono la bocca, mettono i pesci pilota, li puliscono i denti, li fanno la pulizia e si riattaccano sotto la pancia. Ehi, il pesce pilota, il lecchino, il lecchino del pesci tipo squali, squaletti, non lo ricordo. Non se li mangiano. E non ricompensa deve essere che non mangia, perché li pulisce anche i denti, dopo che si mangia la preda, lo squalo, ci guarda e li pulisce i denti. È utile perché gli pulisce anche la pelle dai parassiti. Io una volta ho pescato una mormora e ci aveva attaccata una zecca di mare. Zecca di mare? E che roba è? È tipo una zecca. Una zecca sotto a quel pesce. Che schifo. Pulce o zecca, se non mi ricordo come la chiamo, pulce di mare forse. Io le pulci di mare, io le vedo, quelle che saltano in riva sono. No, non è così, è piatta e si attacca ai pesci. No, quelle lì le ho viste anche io, me li fate, se non me li fate, ti fate pulire. Quindi anche loro hanno... Beh, d'altronde, appunto, sapevo che il pesce pilota pulisce dai parassiti, sicuramente è anche quello uno dei parassiti dei pesci. Vabbè, ma gli squali, io ho visto che sono abbastanza lupi se non li disturbi, non li fa. Ho visto addirittura i sub che gli andavano sopra a fotografarli. Sì, certi sub li accarezzano, io non mi sarei mai fidato, perché se gli girano le scatole è finita. Se le accarezze ti dà? Quello morde forte. Caspita, sì, belli quei documentari comunque, ne vedi di tutti i colori, addirittura che i sub che accarezzano le razze e quelle che si fanno accarezzare. Se penso che c'è quel pungiglione dietro, mamma mia. La razza c'è nella coda, c'è un pungiglione, un mezzullo, se ti punge ti può fare secco anche, lo sai che è morto qualcuno dalla punta della razza? Sì, lo so, era morto anche quel ragazzo giovane, non mi ricordo se è in Sardegna o in continente, si è tuffato, c'era la razza sotto, probabilmente ha beccato il pungiglione e è morto. probabilmente lui l'ha messo sul piede, la barca si è girata e l'ha punto. No, sapevo che questo si è tuffato dalla barca e aveva l'aria da sotto, forse come ha impattato quella di lato la stoccata al torace, mi pare. Non c'è, sono un bel velenoso, infatti la prima cosa che si fa quando si prende la barca bisogna tagliare la coda, la prima cosa, di modo che la rendi in acqua. Come avevo fatto al mare a Etimanno, un amico pesca, io lo aiuto, gli avevamo messo un peso sopra, non un peso, le pinne mi pare sopra, per fare muovere la coda, e gli ero tagliata col coltello da sub, un coltello bello grosso anche, e poi gli ho dato il colpo dietro gli occhi, non dietro la testa, per finirla, per non farla soffrire. Però fai che tu non ammazzi animali. Ma quella era per non farla soffrire. Addirittura una rada, forse quella, aveva partorito le rade piccoline sul bagnasciuga. Non so. Io una volta l'ho pescata una enorme e poi l'ho liberata. Mi hanno fatto tutti gli applausi perché c'erano i figlioletti. Mi stavano facendo, li ho buttati in acqua e c'era la madre. E quando ho visto che aveva i figli mi ha fatto pena e l'ho lasciato andare. Quello che non capisco già, io so che la razza depone le uova, invece questa qua che doveva essere una pastinazza, non proprio una razza, una pastinazza, che è lo stesso di quella famiglia, aveva praticamente partorito dei piccoli già formati, e quindi come può essere? Sono due varietà diverse allora. Forse sono uova piccoli. Sono vipari. E come mai quella aveva dei piccoli dentro di sé? Ovovivipari. E allora come mai quella aveva i piccoli dentro di sé? Forse che non li avesse dentro, che li avesse attaccati alla pancia, quello che avevo preso io. No, già, li abbiamo visti uscire dalla... Da lì, insomma. Proprio da dentro sono usciti. Li avete buttati in mare? Sì, sono scesi direttamente in acqua, diciamo, nella riva. Devi vedere, nere, piccole. Ah, addirittura mi ricordo una cosa già. Erano due le razze che hanno partorito in spiaggia. O pastinacche, anzi, chiamiamole pastinacche con il loro nome. Una addirittura aveva i piccoli che non erano ancora formati, anziché neri. Erano bianchi. Trasparenti. Capito, ho paura che siano nati prematuri quelli. Penso che si chiama passera, quella che c'ha le chiappe. C'è la solitaria. Quella è un'altra. Ah, ecco qua, adesso chiede Antonio. Antonio, la razza depone le uova. E come mai quella che abbiamo beccato noi, che doveva essere una pastinacca, le sono usciti piccoli da dentro? Che per proteggerli li tiene, mi sembra, in bocca. No, Antonio, non ti sento, sei basso il radio. Perché per proteggerli, aspetta che aumento, perché per poi proteggerli ci sono poi i pesci che tengono i figli, i piccolini in bocca. Ah, in bocca? Ma Antonio, quelli sono usciti da un'altra parte, da dietro, erano proprio nella pancia. È probabile che nascano le uova, però lì li protegga all'interno del suo corpo, probabile. Comunque non erano razze, queste erano pastinacche. Copiato? Dimmi come sono, come sono fatte. Praticamente non te lo so spiegare, però in base alle foto che ho visto, quelle nostre erano pastinacche e avevano un arpione dietro, di tutto rispetto, E la razza ce l'ha lo stesso sulla gola. Rimane sulla parte superiore della coda. Giuseppe l'altra volta stava toccando la turpina, anche se era piccola, se aveva due che cosa, aveva fatto brinca. Meno male che l'avevo già finita, ma certo è! L'avrei voluto vedere, mi. 380 di correnti là. E l'altra volta ho visto una torpedine, una cosa assurda, a Platamona, qualche anno fa. Ho visto questa cosa piccolina, che sembrava una razza, però anziché avere le ali a rombo, era tonda, aveva praticamente la struttura alare tonda, la coda tipica tipo scorfano, con la pinna caudale, con le due pinne, no? Quella a metà, la coda praticamente non era filiforme come la razza, era più carnosa, tipo lo scorfano, e aveva la pinna a metà e la pinna finale. E praticamente era di un colore vivace maculato, era una piccola torpedinina quella. Ma la chiatta era, perché se era una chiatta non era torpedina. I maculato, chiacchiette tonde. Sì, allora era lì, come quella che ha pescato Giuseppe. Piccolina ma sincera, se ti dai di cosa era di una scarica a 380 gradi. Era piccolina, questa sarà stata lunga un 20 cm massimo. Coda e tutto, eh. Sì, anche quella che ha preso Giuseppe era lì. E mi stavo anche prendendo in giro, 1-0, 1-0, ha già cominciato da bella orarmi, io scusa non so la... Ma quindi 380 dall'industriale, la trifase. Io non l'avevo mai vista la torpedinina piccola, ma l'importante è non trovarla grande, adulta, che ti gira intorno. Ma tu, guarda che non sto scherzando, ma certe scariche a casa che ti lascia elettrizzato. Lo so, ma hai fatto avvisarlo, magari ti dava una scarica, lo faceva sano. Ma prendesse la staccasse dall'amo. Ma ti ho detto, ma l'hai fatto infatti già. La dovevi lasciar fare, magari lo faceva sano. Gloria. L'altro giorno lo vedo sempre, l'ultima volta che siamo andati, ha lanciato e si è preso le canne in su e tutte quante, due ne ha preso di corpo. Io l'avrei incurato. Ma infatti credo che lo faccia per quello. E su e l'ha preso. Ma come non ha toccato di me? L'altra volta mi incrociava sempre di me. Dovevo la canna di gente, gli andava a afferrare e mi ha Giuseppe recuperato. Ma tu mi hai preso la canna? No. Dovremmo imparare a lanciare dritto però, non di lato. Vai, dimmi. Ho detto mille volte, a volte ce lo volevo buttare a muglio. Ehi, perché si girano le balle poi certi pescatori? Se la prendono proprio a cuore. Sì, a volte si deve imparare a beccare, prima di venire a beccare, se ti si rampiamo a muglio. Se no così si fa, Se dici, buona pesca, ancora vai, ammazzati. Dai. Quando ti raccontano le cose che conosci pescatori, di una volta c'erano questi ragazzi che stavano pescando e questo mi ha raccontato che una... Lo passo. La tua canna è andata a recuperare qui a Polo Torres. Lo passo anche tu. Poi gli ha recuperati, ha preso un altro, c'era un pesce volante, di quelli che volano, quelli di qua in fuori, un bel brutto, balia un coso, un vampiro. E si è fermato un pescatore con il gozzo, non lo toccate, quello lì che si è rimorsica è velenosissimo. Cazzo ha preso, lì ci serve gli stivali, gliel'ha schiacciato con gli stivali e si è recuperato al mare. Ha detto che si metteva a volare. Il pesce volante c'ha delle specie di pinne molto larghe che fanno da ali, tra virgolette. Cioè fanno dei salti, ecco lì. La ragna è la più lunga. Dai un bruscio. Tieni. Tu. Avanti il fruscio. Nada. Magari sono in 100 su questo canale, non voglio entrare. Continua a parlare, no? Ah, ma se entra qualcuno, meglio. Capito già, la ragna. Quella è particolarmente merdosa. Ragna scorfa. Sì, ma la ragna è terribile, è proprio di un dolore inimmaginabile. Ma lo so, perché una volta appunto un'amica mia e si sono aggrinzite tutte le mani, le braccia, i piedi, si sono già tutte le dita. Guarda, non ci va più a muovere, si è dovuta portare lì a portare sopra, gli hanno fatto due iniezioni, lì era rotto. Cacchio, o la presa grossa la ragna o è allergica lì, perché se è grossa la ragna può essere pericoloso anche, mortale anche. no, lì ha messo il piede, la ragna sai cosa fa, si sotterra sotto la sabbia e mette gli acculi, tutte le spine che c'ha nel dorso, le mette dritte. Quando tu ci pungi il piede, ti pungi normale, non ti secca l'ubbidi, te lo fa tutto aggrinzito, ti fa piegare le dita, non riesci più a drizzarle, ti si irrigidiscono le mani, tutto quanto, perché ti inietta sicuramente qualche inchiostro, qualche cosa del genere. Ittiotossina. Vabbè, chiamala come ti dibiace, comunque un veleno, è un veleno che ti fa questo effetto qua, paralizza brutto. Avanti anche. Adesso come va il microfono? È abbastanza amplificato. Ma parlando stai? Se non si sente nulla. Dicevo, il microfono è abbastanza amplificato adesso, guarda un po', ola ola ola. Va bene. Aspetta, guarda un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ola ola ola Coca-Cola. Già va bene così, la cosa era sotto casa tua. Eppure già le ragne, o come le chiamare, tracine piccoline, quando metti il piede scappano, non rimangono lì. E se non le chicci? Cazzo, ancora non ha compreso. Allora io te la racconto una, se proprio vuoi sapere. Una volta ho preso questa ragna e praticamente la ragna non sa che è difficile da staccare perché ti punge. Allora cosa ho fatto? L'ho mossa appena appena il coso della costola, bene, e è riuscita a uscirne, e è caduta nella sabbia. Dopo ho continuato a pescare, allora era vicino alla canna. Continuo a pescare e praticamente guardo e non c'era più la ragna, praticamente c'era sotterrata sotto la sabbia, passa questa rona di buon illuminato, questo comincia, io, le ho delinquenta, se ne abbia da gommito. Io non sapevo che lì era la sedazione del fantuzzi, lui si era diritto, questa spiaggia c'è l'età di avere sotto le canne a camminare. Aspetta un attimo, a quella persona che sta mettendo la cordante, mettila bene, almeno non lo sentiamo a Gianni, però mettila buona, metti un po' di batter, perché davvero stai facendo figure di merda per adesso, aiuto. Ma non sta sovramodulando però. Lo sto sentendo io, non sta sottomodulando perché non ce la fa, per quello gli dico, metti qualcosa di più potente perché sennò va a fare figure di merda. No, qua sento solo il fischio di tanto e basta. E non ti basta? Sta cercando di sovramodularlo ma non ci riesce perché c'è una no, e poi bisogna mettere subito l'acqua calda se non sbaglio già, per aprire il buco e far uscire il veleno. E siamo lì al limite di precipitazione. E siete sovramodulati voi e voi? Ho detto acqua calda, ammoniaca, pipì. Ammoniaca credo che sia per le punture di zanzara, non dilatta l'ammoniaca. E allora, come mai quando ti si attacca la medusa con l'ammoniaca riesce a farti passare il dolore? Non lo so, però io mi ricordo che l'ammoniaca, tanto è vero che c'erano in quelle penne che vendono in farmacia per le punture degli insetti, ma credo sia astringente, al contrario invece dell'acqua calda che dilatta e fa uscire fuori il veleno. Se no dovresti appena viene punta succhiare. Se ti punge deve succhiare. Se ad esempio dovesse pungerti se lui ti dica io faccio una foto, una telefonata allenarti la cassa, guarda, perché se aspetti o no, io l'ho portato la dottora, non riusciva a drizzarle, le dita di la gamba si sentiva intormentita. Però se per la prima alla volta mai riesco a sentire tutte e due, perché per una questione di distanze mi sta arrivando paro paro. Sai così, io do il colpo riportante per vedere se è libero, però Gianni riprende lo stesso. Ma se tu vedi che riprende non deve riprendere, allora fai una cosa, tu quando tu finisci a parlare rilancia tu, dici avanti Gianni, avanti Marco, così non si sbaglia. Ma io sono per il caos. Stavo dicendo, sì, Antonio ha detto giusto, ci vuole contro la puntura della lavagna l'acqua più calda possibile, al limite della sopportazione. È vero, per dilatare, ma tu lo sai, siamo cominciati le cuffie, sì. No, io non lavo, non c'è nessuno. Sui tentacoli li becca, rimangono come arpionati, da. No, ma uscivano da sotto, ma proprio dove c'è la cupola. Ah, forse erano pesci che rimanevano lì come... cioè quei pesci parassiti. Poi pigliati, erano piccolini, vedi, quelli piccoli, piccoli, proprio... come per fare uccidere. Come dire che pesca era solo roba piccola. Se il mormoretto stava pescando l'altro giorno, ho detto, cosa ne fai? Mettile in acqua quelli che sono piccoli. No, te le do al gatto, quale gatto? E mi hanno regalato un gatto, come si chiama? Titi, come quello che è morto a me, e non gli veniva un nome, e ho detto, se non è che si chiama gatto Giuseppe. E ballistami. Appagata. Ho preso un'orata piccolina piccolina. Quanto? 10 centimetri. 2 centimetri. E cacchio, come faceva quel mio amico, quello di soggetto, che praticamente per pescare metteva gli ami mosca, mini mosca, quelli del numero 24. Praticamente prendeva cose microscopiche, poi stava lì. E io ho pescato. No, ma infatti io se non prendo roba piccola la butto in acqua, perché non c'è messa le zame, no, non ti dico, ho preso una lattina piccola e l'ho buttata in acqua, non mi va di ammazzare pesci piccoli, no? Sì, perché è quasi inutile. Poi, ecco, questo amico era un coso, perché lui anche se prendeva pesce un po' degno di nozza, da... anche per frittura, per dire, lo ributtava in acqua e dice, no, oh, io non mangio questa roba, allora che cazzo le prendi a fare? E c'è gente che butta in acqua pesci enormi, tipo con le gare di pescare a farlo vedere in televisione, e le buttano in acqua. Eia, quello sì, loro pescano proprio per cosa sportivo, lo rimettono in acqua, no, ma lui prendeva anche pesci piccoli, e poi li buttava morti, però da morti, prima li teneva nel secchio, poi quando erano morti li metteva in acqua, detto, ma allora è una stupidaggine quella, che cazzo pesca a fare? Li liberi quando sono vivi oppure non li liberi se li porti via, cosa li butta a fare? Per inquinare l'acqua, per quella che inquina. Ma infatti già l'ho mandato al diavolo già, che poi per altri motivi l'ho mandato al diavolo. Ho capito, quello delle cassette. Quali cassette? Ricordami. Come mi ha detto che era un amico una volta che gli prestavi le cassette e poi le sdoppiava, quella sdoppiata la metteva nella tua custodia. E quella originale si prendeva lui. Quello è un altro, quello si chiamava Antonio. Quello delle cassette non era proprio amico, era amico conoscente, diciamo, là. Ma era abbastanza losco, anche per altri motivi. E questo no, questo era amico ventennale, ma alla fine non ce l'ho fatta più a frequentarlo, proprio non ne potevo più. Meglio tardi che mai, no? Poi era falso, ipocrita, o meglio, prima non lo dava a intendere, però nei tempi era diventata una cosa allucinante, proprio, era mille facce aveva, con ognuno aveva una faccia diversa, capito? Poi non mi piacevano i suoi comportamenti nei confronti di altre persone, tipo che prima ne faceva un monumento, no? Poi il giorno dopo non li saltava, li passavano spalla a spalla, faceva finta di niente, capito? Era un vigliacco e tante altre cose, dai. Uno di quelli che è meglio prendere che trovare, ma io ho imparato. Quando le persone non vanno, basta dargli un calcio in culo e non ce la cavare. Poi sai cos'è, già? Non potevi fare un discorso serio, che lui iniziava con le giabidure, con cose stupide, sai, battute stupide, oppure parlava di cagate, di stupidaggini. Alla fine ho detto, ascolta però, io ti cerco di fare un discorso serio, tu stai sempre con le giabidure, come i bambini. E quello è stato anche un altro motivo per cui l'ho mandato al diavolo. Che tutto il resto, Una persona deve rendersi conto quando è il momento di scherzare, quando è il momento di parlare seriamente. Perché tutti sappiamo scherzare, ma momento, diciamo, che uno praticamente si deve anche rispettare e affrontare il discorso, no? Sì. Poi sai cosa è andato a dire a mamma? Lui, a mia madre, dice, sai Marco è un po' così, adesso è ora di crescere, è ora di crescere, capito? Ma che non eri maturo da dire? Vabbè, io già sono un po' un giocherellone fantazzista, ma che vado a dire a lei, è ora di crescere, ma papà, dai, cresci tu, cazzo, che è allucinante, guarda. Ci sono persone che vogliono dare lezioni di vita a te e hanno bisogno loro di imparare. Non si rendono conto che hanno loro bisogno di sapere come si vive. E poi questo non è mai andato in discoteca, o meglio è andato una volta e si è trovato in una rissa. Non è mai andato in un locale notturno, non è mai andato... Vabbè, concerti rock piacciono a me, è un tipo abbastanza soggetto, in poche parole. Che non conosce molto la vita esterna. Chi è? Anto, tu sì. Vabbè. Pensa già che questo si è fatto la prima scopata, mi pare, a 33 anni. Prima non l'aveva neanche vista. Fortunato. Poi ha fatto cose che mi hanno lasciato un po' spiazzato, tipo cose che io non avrei mai fatto, no? È andato a casa di questa a dormire con lei, a scopare con lei quando c'era la madre nell'altra stanza, nella stanza a fianco. Cioè, si è preso la valigia e si è andato al bivacco della sua. Io ero sgomento, ho detto, com'è possibile? Cosa io non farei mai? Ma sicuro che non ti ha raccontato base? Sicuro che? Che non ti abbia raccontato base? No, no, anche il fratello me l'ha detto che erano preoccupati perché si stava lasciando un po' traviare da questa, tra virgolette. Cioè, capisco se i ragazzi vedessi, ma che va dal bivacco a casa sua a scopare con questa, con la madre a fianco, nella camera a fianco. Mi è sembrata una cosa, cioè per lui che è molto tradizionale, molto soggetto e tutto quanto, mi è sembrata una cosa assurda. Sembra che sia passato da un lato all'altro tutto di botto. E l'occasione fa l'omolarlo. E poi era finta male lì, addirittura avevano bisticciato proprio pochi giorni dopo, questa l'ha azzannato la mano, gli ha tirato morso per poco con l'istacca il tendine. Lui? Eia, però lui dice che è colpa di lei, però ho avuto idea già che lui volesse fare qualcosa per incastrarla, cioè lavora, la sua mente lavora al contrario di quella delle donne. Cioè lui che incastra, siccome questa era, ti spiego, ricca, lui si diceva, ricca c'ha il villone, c'ha case, possiede roba, possiede case, lui era tutto così, capito? O ha tentato di fare qualcosa senza protezione, quasi per incastrarla e poi offrirsi di sposarla, perché lui è così. Voleva incastrare, ma di quelli materialisti allora, non è tanto così. Già, ti dico solo una cosa, è terribile questo, sempre anche quella lì, quella c'ha le case a rune, c'ha un villone, è ricca, tiene i soldi, lui è così, è terribile, è una troia, capito? Ma lì? No, lui praticamente fa il discorso che fanno le donne, lui si vuole sistemare con una loro i soldi. Il discorso lo fanno le donne di solito, no? di sistemarsi, lui è l'opposto, è maschio e fa discorsi la donna. C'è Marumacco, il sorvenire è quello lì, c'è Marumacco. E vabbè, a me questa persona un po' triste non è che mi piaceva tanto. Terribile, già, io non ci credevo perché lui 20 anni fa non era così, era diverso. Da un po' di anni a questa parte è diventato proprio terribile. E poi già si è sistemato, mi lo sai. E si è sposato. Allora io non voglio fare nomi. Lui era, a 40 anni non era laureato, perché sta studiando legge, non era ancora laureato a 40 anni. Era disoccupato e si è sposato con una giudice di pace. Buona che ci aveva assunto, sì, diceva, questa è ricca, è quella lì. Orune, c'ha la villona, c'ha le case, c'ha possedimenti, capito? Però la cosa che risulta assurda già, come ne abbia fatto una già sistemata, giudice di pace, appigliarsi uno che non possiede niente, che è disoccupato e che a 40 anni ancora non si è laureato? No, non si riesce a spiegare questa cosa. Magari l'ha affidato da cura, magari sessualmente, oppure le piaceva come tipo, cosa ne so. Le donne si impazziscono al lato inverso, oppure escono di testa e fanno quello che vogliono, oppure se vogliono una persona, un uomo che le piace, fanno tutto per ottenerlo. Lo so, però sai cos'è, non è nemmeno una gran bellezza, un tipo così banale, non è certo un tipo buono, sai, di quelli alla Banderas, quella gente là, no, questo è tutto l'opposto. E ci è sembrato assurdo davvero che se l'abbia preso, non capisco come mai, forse lui si è presentato molto più di quanto non era in realtà, perché lui lo fa quello. Chi non sa, io ho amici per dire che non sono parenti belli, però hanno voglio fare con le donne che le attirano, le sanno prendere, le sanno parlare, le attirano qualche cosa, capito? Si fanno subito, si rendono conto di essere accettato l'attenzione perché ci sanno fare con le parole, scherzano, fanno, sono gentili, sanno quello che magari vuole la donna, dice io aiuto molto in casa, capito? Quando sentono così le donne si sciolgono. Può darsi, questo è un furbastro, è un furbastro, sembra un gonzo ma è un furbastro. E invece lui purtroppo, non purtroppo, per colpa sua, molte ragazze, quelle più smaliziate, no? Quelle più furbe, l'hanno mandato al diavolo, da idiota l'hanno trovato, da idiota l'hanno lasciato, capito? A una gli ha portato i fiori, no? E questa ha fatto un'aria schifata, gli ha girato la spalla e se n'è andata. A vedere di stretto. Un'altra gli ha detto che era un eroe solo nel suo mondo, capito? Perché lui si faceva tutto il mondo suo, io qua, io là, io a destra e a sinistra, no? E gli ha detto che era un eroe solo nel suo mondo, l'ha mandato al diavolo. Tutto sommi. Mangia. Ho detto tutto sommi. Beh, non ho capito, ma facciamo finta di aver capito. Ecco, fumato. Tutto sono me, tutto sommi. Ah, intendevi quello? Ah, vabbè. Sì, lui si presenta molto, io qua, io là, io a destra e a sinistra, poi invece... Addirittura è andato a raccontare a una che noi facciamo le immersioni in profondità, capito? Ma noi invece stiamo a pelo d'acqua. Pensa lo spunto. Sì, sai cosa ha fatto? Noi praticamente ci siamo fatti delle foto immersi in acqua, no, con la muta e tutto, però eravamo a 2 metri di profondità, lui ha detto che facevamo le immersioni in alta profondità, è un ballista. Io. Vabbè. Vabbè, un po' di fantasia con le donne, all'inizio si ha. Io mi ricordo che una volta ero in discoteca, sento mi stavo riposando, avevo appena ballato, e mi stavo riposando e si è avvicinata questa ragazza, solitamente non mi era mai successo, si è avvicinata questa ragazza e mi ha detto che cosa avessi, perché mi vedeva abbattuto. Io lì ho preso la palla al balzo, ho detto che mi aveva lasciato la mia ragazza, che era un po' di malumore, e abbiamo cominciato a ballare insieme, con questa tutta la sera insieme, per la fine me la ricrocerà. Bene, bene, hai fatto bene. Quando l'occasione c'è, non bisogna perderla. Vabbè, comunque sono contento che sia finita questa storia di questo pseudomiconzolo. Perché poi la cosa strana, quando praticamente si è messo con questa, non ha più salutato, capito? E faceva finta di non vedere lui con i genitori. È un coso, poi lui era praticamente morbosamente fissato con conoscere gente VIP, conoscere gente ricca, conoscere gente importante, lui voleva diventare sempre amico di gente importante, e era proprio una mania mia, già, non avevo mai visto niente di simile. Sì, ma dico io, lui era il coso all'inferno, per pretendere queste cose, oppure diciamo non era nessuno. Oh già, una persona modestissima, che posso essere io? Padre maestro, elementare, madre casalinga, cosa vuoi di più? Non avevano poi né possedimenti né niente. Ma uno non può avere certe pretese se poi non può dare nulla. No, non è vero. Io avevo un amico che invece era fissato, la rivista. Lui doveva fare, lui avrebbe fatto questo, lui aveva la testa per fare quello, ma non so dove è finito. Eh? Di rogni. Ecco, e questa è una cosa del genere, perché lui diceva agli altri, e quelli sono arrampicatori sociali, qua, là, perché praticamente quelli c'erano riusciti, lui no. Adesso probabilmente ci è riuscito anch'io. Già, scusa, ci è riuscito anche lui. E sai cosa ha avuto il coraggio di fare l'altro giorno? L'ho incontrato in via Roma, angolo via Bellini. Mi ha visto arrivare, ha detto, ah, ciao Marco, come se niente fosse, dopo che non saluta, che fa finta di non vedermi. Io praticamente ho proceduto dritto e non l'ho manco cagato. Ma ti ho detto, cazzo, si è permesso di salutare dopo tutto il resto. No, no, basta, mi sta per dire, ma ti conosco. Diciamo che forse lui ci aveva ripensato, forse ha fatto male a non salutarlo, capito? Pensava che con questo saluto grandioso ci avrebbe riconquistato. Ho già, te li avevo fatti vedere quei messaggi che mi mandava. Negativo. Ecco, allora, quando ci vediamo ricordami di farteli vedere. Perché una persona, diciamo che nell'ambiente psicologico ha detto, questi non sono messaggi di uomo di 40 anni, questi sono messaggi di ragazzini delle elementari o delle medie. Proprio a livello terra a terra. Allora, se io ti avessi mandato quei messaggi a te, tu avresti pensato, Marco è froscio. Non manca l'occasione, tanto ce li ho sempre memorizzati. Non li voglio cancellare per farli vedere a tutti. Non è che la tua ragazza. No, qua scarseggia anzi il materiale. Infatti, quella lì, una psicologa praticamente, li ho fatti vedere. E dice, questo non è un messaggio di un uomo di 40 anni, è un messaggio di un ragazzino delle elementari o delle medie. Vabbè, meglio vederne di tutti i colori nel mondo, là, almeno non ti devi stupire di niente. Tutte, diciamo, sono tutte esperienze, sia quello negativo che quello positivo, no? Interessante che ce ne siamo più positivo, perché quello negativo siamo un po' stufi a vedere tutto. Eia, ma meglio così. Ah, qua ancora c'è caldo, non so come fare, guarda. Perché con chi si ammoglio. Per me, guarda, riempirei la vasca di acqua, mi metto dentro l'acqua proprio. Io ho fatto il bagno con l'acqua fredda, ho avuto il coraggio. Io ho fredda no, stamattina ho fatto la doccia e i capelli, però l'acqua l'ho usata non fredda, diciamo a temperatura corporea, da. Ma io ho fatto fredda perché mi sono dimenticato a staccare giocata allo scaldabagno. E non era scaldato, quindi non devo fare l'acqua fredda. Io di solito con l'acqua fredda lo faccio solo tipo alle docce, se ci sono docce vicino alle spiagge, no? Però un pochino mi viene a gre. Ma lì si deve già mangiare un gare. Accendi la stufa già. Chi c'è all'ascolto? Antonio, ci sei ancora? Non c'è nessuno, ci hanno abbandonato tutti. Sì, hanno voluto milioni la gente che c'è in ascolto. Noi non mangiamo nessuno, chiunque vuole entrare ben accetto. Non ho fatto già anche da Porto Torres, se non sento mai nessuno. Invece poco tempo fa prima dell'estate sentivo anche gente, boh, adesso niente, niente Alghero, né niente, c'è solo Antonello Di Ossi che entra, che ci fa piacere che entri, per il resto niente. Perché Giampaolo c'ha problemi d'antenna, Coso Gianluca è pieno di lavoro, sta sempre lavorando e quindi non c'ha tempo, me l'ha detto proprio l'altro, fatto l'altro giorno. Poi chi entrava di altri? C'era Gianluca, Silvestro, Eugenio non lo so perché non sta entrando, l'ho visto l'altro giorno ma di sfuggita. Non dove non gli ho chiesto nulla, ma già glielo chiederò come non sta entrando. Eugenio mi pare di averlo sentito, mi pare che sia quello che arriva a Santiago 3 qua, no, Santiago 4 arriva. Questo qua arriva bene, a casa arriva bene. Comunque un po' anche per l'estate vanno in giro, capito, poi c'è anche il camper e quindi gira. Bello il camper, bello avere il camper, mi piacerebbe. Se io avessi il camper e soldi da parte, molti soldi, andrei in estate, 3 mesi dell'estate, ogni giorno in una spiaggia nuova. Praticamente inizi da nord, da Porto Torres, e vai verso, che ne so, verso destra. Ogni giorno una spiaggia nuova. Poi scendi tutto giù, tutto al fianco della Sardegna, poi vai a sinistra, vai in zona di Cagliari, tutta quella zona lì, poi risali dal lato ovest verso su, tutto, ogni giorno una spiaggia nuova, sarebbe bellissimo, la vita dello zingaro praticamente. Sì, infatti non sta proprio per quello, aspetta che metto le cuffie. Come fai a sopportare le cuffie, mamma mia, a me fanno venire mal di testa. Io quelle che ho sono leggerissime, sono le Sennheiser, quelle che sono di discoteca, sono quelle professionali. Più che altro le modulazioni, perché sai, magari parli con qualcuno che esce normale, poi entra un amplificato e ti crepa le orecchie. Io lo so, non c'è quel problema. Tipo Luca, mi che stava ascoltando, che quando entra mi crepa l'altoparlante. Non vedo che mi dice a noi di abbassare. Bene, che ore si sono fatte? Le 11:20, è possibile? Sì che è possibile. Vedendo l'orologio, 11:26 minuti, almeno è passata la serata. Dai, no, ce ne andiamo a andare, va, che sono qua di studio. Ciao, buonanotte Marco, ci sentiamo magari domani. Io prima di tutto vado a cenare e poi se riesco vado a dormire. Ma come fai a digerire così tardi? Te ne vuoi subitare proprio non digerisci un capo? Sì già, io digerisco tutto, anche se mangio a mezzanotte, no, non c'è problema. Sei come distrutto. Stomaco distrutto, anzi distrunto. Distrutto. ciao, buonanotte. Ok, ciao Gianni, buonanotte. E buonanotte a tutti quelli che sono in ascolto.